Gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM 236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastronzo lì. Buonasera a te e tutti i radioascoltatori. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Ah, che tempi, che tempi. No, non ho detto gioia. Ah beh, ma Parenzo lo facesse lo stronzo, perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui, eh. Era il professore. Allora ragazzi, vi devo dare una notizia, popolo della radio, popolo della zanzara in ascolto, vi devo dare una notizia da fonti che io ritengo certe, la notizia è questa ed è abbastanza clamorosa, devo dire, eh? La padrona di Dudu, cioè Francesca Pascale, ha abbandonato Arcore ieri mattina. Non ha lasciato Arcore per andarsi a fare un viaggio. Ha abbandonato Arcore nel senso letterale del termine. Non si sa se temporaneamente o per sempre. Questo lo potrà dire solo il tempo, diciamo, no? Ma c'è stata una rottura vera. Una crisi tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi. Una crisi che ha portato la ragazza napoletana, una rottura che ha portato la ragazza napoletana. Noi facciamo il tifo sempre per lei, no? Sia chiaro. Questa trasmissione è pascalizzata. Ha portato la ragazza napoletana ad allontanarsi in modo traumatico dalla residenza dell'ex premier, che è stato da poco assolto, come sapete, nella vicenda Ruby. C'è stato un confronto, un litigio tra i due a causa, sembra, Parenzo, so che sei all'ascolto in maniera molto attenta, però la notizia è questa. C'è stato un confronto, un litigio tra i due a causa soprattutto della recente esposizione mediatica della Pascale, un confronto che, secondo le fonti che abbiamo consultato, non sto scherzando, sto dicendo sul serio, eh. Ma io non ti interrompo perché non secondo le fonti che abbiamo consultato è finito in malo modo questo confronto. Dopodiché la Pascale se ne aiuta, se n'è andata, questo è quello che abbiamo appreso noi. Ma Dudu con chi sta, però? Questa è una domanda interessante. Questa non è una domanda stupida come di solito fai tu, eh. No, è una domanda interessante, grazie. Molto interessante, e bisogna capire ovviamente, al di là della questione Dudu, che pure è importante. No, è fondamentale. Se questa crisi è una crisi, come dire, temporanea oppure una crisi definitiva. Chissà. Tornerà a Canossa la signora, tornerà a Canossa. È un punto interrogativo oppure è una frase tua, una tua opinione, una tua previsione? Una mia previsione. Che sei il divino, che fai? Il divino, che sei? Come quella di Otelma. È probabile che torni, come che non torni. Uno dice così, no? Scusi divino, sì. Scusi divino, sì. Ma la Pascale secondo lei può tornare? Guarda, noi abbiamo fatto dei vaticini, è molto probabile che tornerà, torni, può essere anche che non torni. E quindi? Vabbè, comunque ragazzi, al di là degli scherzi, quello che ho appreso, no, è questo, è drammatico, quello che ho appreso, è drammatico, adesso chi se ne frega, insomma. Beh, no, aveva appena avuto la sua, sempre una grana quel povero uomo. Allora, fino a qualche giorno fa, poi magari tutto si ricompone, La Pascale parlava in questo modo, per esempio, delle vacanze. Capisco, cari ascoltatori, voi camionisti, tassisti, gente che è stata a casa, gente che è stata in ufficio e non lavorate, ascoltate la zanzara. Perché ho saputo, Parenzo, che c'è un sacco di gente che non fa una mazza in ufficio alle 6:30 e sta lì con l'auricolare. Lo voglio dire, cari padroni, cari capi ufficio. Fottetevene, lasciateli perdere. Se vedete uno con l'auricolare alle 18:30 che imbraccia un auricolare, imbraccia una cuffia e la mette in testa, lasciatelo perdere, non lo punite, non chiedete nulla. Sta lavorando anche lui, si sta caricando anche lui. So che non è una notizia, magari, che vi cambierà le vacanze, che vi cambierà, no, che vi cambierà il reddito. non tocca le vostre tasche. Però noi ci occupiamo anche di questo, eh. Comunque, le vacanze, chissà se poi si faranno queste vacanze tra la Pascale e Berlusconi. Non si possono chiamare vacanze perché la Pascale dice dobbiamo stare ad Arcole. In vacanza purtroppo siamo, tra virgolette, costretti, e non mi dispiace, ad Arcore. Quindi ci godiamo Arcore, che senza dubbio è una vacanza anche stando in casa. Ragazzi, non mi sono inventato niente, eh. Fonti certe, fonti certe. Pascale che picchia Berlusconi, no, nel senso, questo una volta disse lei, le chiesero una cosa e dice, sentiamo. È vero che lo picchia quando dice le parolacce? Assolutamente no, a volte c'è la tentazione, però non siamo mai arrivati a questi livelli, grazie a Dio. Questa è la Zanzara, 800 24 0024. Oggi Galan non è in prigione, ma potrebbe andarci. La Camera ha votato il suo arresto nonostante una gamba fasciata, nonostante l'ospedale. Parenzo, però io su questo devo dire la verità, io non vorrei Galan in prigione per mille motivi. So che mi diranno fuck Cruciani, fuck, bisogna mandarli in prigione perché questo è un ladro, questo è un corrotto. In prigione se è colpevole, secondo me, e se ci sono i requisiti, secondo me non ci sono, però magari faccio un passo troppo grande, però io non vorrei Galan in prigione. Detto questo, uno può votare, la Camera può tranquillamente votare una cosa anche in assenza di uno con la sedia a rotelle, uno con può votare, poi si deciderà quando mandarlo in prigione, no? Sul fatto che la Camera voti, non è che uno può rimandare 2-3 mesi. È inevitabile. Adesso tu dirai, io sempre quello del regolamento, che no, no, legge, no, legge, no, no. Però... anche secondo me alla fine è quasi inevitabile, votare. Prima o poi uno deve votare, non è che può aspettare mesi prima di votare. Se i magistrati chiedono, e secondo i magistrati è urgente, secondo me non è urgente mandare Galan in carcere, se secondo i magistrati è urgente, poi uno deve votare, no? A prescindere dal fatto che uno sta in ospedale, poi si deciderà se dare i domiciliari, che gli avvocati hanno già chiesto, se mandarlo in prigione piantonato dai carabinieri, in ospedale piantonato dai carabinieri, questo è un altro discorso. Però intanto la Camera vota, questo non è drammatico. Galan dice essere incazzato, e lo capisco, è incazzato e lo capisco, adesso abbiamo pure un audio che non si sente una mazza, comunque sentiamolo, vai Galan. Incazzato sono, se vuoi raccontarlo, ma tanto. Bocca al lupo, hai sentito, tanto incazzato. Galan che diceva qui alla Zanzara in un'intervista di qualche giorno fa alcune cose: non si può mandare in carcere uno senza interrogarlo, non c'è motivo di mandarmi in carcere, e poi andrò in biblioteca, giocherò a carte. Prima mi avete chiesto se ho paura del carcere. Io ho paura di andarci ingiustamente, non ho paura di stare in una cella, di passare il giorno, troverò qualcosa di interessante da fare, andrò alla biblioteca a metterla a posto, farò qualcosa, giocherò a carte, farò qualcosa. Sempre Galan. L'unico mio pensiero costante va solo in questi giorni a mia figlia che ha 7 anni e che comincia a capire che qualcosa non va. Il papà che è sempre al telefono con un avvocato che lo deve aiutare, come lei dice, e la mamma che legge un sacco di carte. A proposito ancora di Berlusconi e della sentenza che lo ha assolto, Roberto Saviano, il quale dice: io metto la mano sulla bocca, Sini ha fatto un lavoro certosino, disciplinato. Sì, va bene, d'accordo, probabilmente sì, ma in una direzione lo ha fatto, no? In una direzione, alla fine risultata sconfitta. Non si può dire, come dice Parenzo, sconfitta, e invece sì, io lo dico, ci sono vittorie e ci sono sconfitti, i processi sono fatti per questo, per la forza. La pubblica accusa è stata sconfitta, ma il processo aspetta, senti Saviano, va. Il lavoro che ha fatto Ilda Boccassini è stato un lavoro certosino, disciplinato, dentro il diritto. Non è un'apologia che in questo caso sto facendo, è un riscontro. Non stiamo parlando parlando di un magistrato che ha commerciato, come moltissimi PM, con i giornali. Non stiamo parlando di uno di quei PM che passa le carte ai cronisti amici suoi per cercare di costruire un consenso a un'inchiesta che spesso non ha forza. Vabbè, abbiamo capito che Saviano è molto legato alla Boccassini e apprezza il suo lavoro, uno si può dire chi se ne frega, assolutamente chi se ne frega, credo in un intervento su Repubblica, se non sbaglio, così parla di Ferrara senza mai nominarlo, dice: lasciamo alla dimensione da cabaret, i pagliacci servitori di un padrone alla deriva che hanno la testa solo per poter indossare parrucche dal colore sgargiante, ripeto. Lasciamo alla dimensione da cabaret i pagliacci servitori. Ferrara è un pagliaccio servitore. Ha la testa solo per indossare parrucca dal colore sgargiante, cioè un cretino, un cabarettista in sostanza. Ferrara su Saviano. No, Saviano, scusami, diventa una cosa da manicomio, eh. Ma no, Sodoma, Gomorra, tutte queste puttanate, no, Saviano, no, scusami. Ma Saviano, no, ti prego, Ma Saviano è un povero ragazzo, usato, non scrive niente. Saviano firma un'immagine che gli hanno costruito attorno e che l'ha distrutto. E rispondi, squilla il telefono della Zanzara. Che cazzo è, Parenzo, sottofondo come al solito in mezzo alla strada, solite cose, no? Bravi ragazzi, avanti, forza ragazzi. Emilio Fede, in una conversazione rubata, bisogna poi verificare il nastro, una conversazione rubata dal suo trainer, dal suo personal trainer, ex personal trainer immagino, avrebbe detto: la sua vera storia, cioè quella di Berlusconi, è mafia, mafia, mafia, soldi, mafia. Dell'Utri lo sa e ci mangia sopra. Non vi abbandonerò mai. Però hai abbandonato tu Berlusconi, amico mio. Eccolo qua. Molto bene. Molto bene. Molto bene una cippa. Però siamo alla pornografia telefonica, ormai. Cioè adesso un personal trainer avrebbe sentito una conversazione. No, avrebbe registrato, non hai letto, non hai letto. Registrato, una e l'ha consegnata ai magistrati. Beh, capito a cosa siamo ormai. Ho capito, amico mio. Quello passa, no, il convento adesso. Ovviamente... Passa il fatto che Fede. Sono d'accordo con te, è una notizia bomba. Passa ovviamente, il fatto che Fede. Passa il fatto che Fede avrebbe detto a questo personal trainer in una conversazione rubata: ma è per la storia di Berlusconi, che cos'è? Mafia, mafia, mafia, soldi, mafia. Bah. Bisogna vedere se l'ha detto di seguito, se di cosa parlava. Poi ha parlato anche di altre cose, di mangano, eccetera, eccetera. No, ma se pubblicassero le tue conversazioni per strada, perché tu sei per strada e stai chiacchierando con uno qualunque, e intanto uno lì vicino ti registra, tu puoi dire qualunque cosa. Adesso io, figurati, ho fatto l'elogio delle intercettazioni telefoniche, non è che ti tiro indietro. Però qua, amici miei, siamo al delirio, eh. Oh, il professor Antinori. Ah, come sta il professor Antinori? Il professor Severino Antinori, di cui ricordiamo una telefonata qui alla Zanzara che fra poco vi faremo riascoltare, sostiene di avere fatto l'eterologa, cioè di avere fatto l'inseminazione artificiale. I carabinieri e il ministero dicono di no. Lui dice che Lorenzin è praticamente al soldo del Vaticano. Al soldo del Vaticano. Antinori. Professore, sono Cusciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma ti faccio vedere, sei un mascara, non ti stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. Ma è con noi la meravigliosa, bellissima, stupenda, fantastica, quello che volete, la contessa Marisela Federici. Buonasera, contessa. Ma parli con chi? Ma parlo con te, tu lo sai, tu lo sai che io ho una predilezione. Io pensavo dicessi la Pascale. No, no, la Pascale sì, è una ragazza carina, però tu sei un altro livello, diciamo la verità. Ma cosa fa la contessa? Cioè, cosa fa? La contessa sta qui praticamente svuotando l'Appia dopo questa acquazzone. Sembra di stare, non so, a Benares durante i monzoni. I monzoni, un orrore, sì. Quello che è successo, che un bifragio. Che è successo, contessa, a casa sua, nella sua enorme casa? Mi volete chiamare con nome e cognome? Marisela. Più elegante. Marisela, beh, anche contessa, anche contessa. Come state? Che non vi sento dall'epoca di non so, di quel Cavour, casino lì, di Cavour, no, un anno fa, circa un anno fa, quando scoppiò quel casino tremendo sulle con tue frasi. Con tutto rispetto, contessa, ci sono stati anche cose. Dai, e Parenzi, no, tu non dimordi, eh? No, voglio dire, Parenzo vuole dire che ci sono state cose ben più gravi a Roma, che non il nubifragio che ha, come dire, allagato le stanze della sua enorme casa. Le conseguenze delle cose grave che ci sono a Roma. Oh, ma certo, scusi, ma che è successo alla sua casa sull'Appia, per l'esattezza? No, non alla mia casa, grazie a Dio, è successo alla strada. È successo, sì, che l'Appia è completamente allagata, ma questo, sì, non sarà solo sull'Appia. No, sarà, certo, non c'è dubbio. Anche in altri posti che io non arrivo a vedere perché sono uscita e poi purtroppo sono tornata indietro. Scusi, la servitù. Altro che in sub, come ha detto qualche giornale, per uscire di casa, devo uscire con un submarino. Scusi, adesso parliamo anche del sottomarino, il sindaco di Roma. Il sottomarino. Scusi un attimo, ma non c'è la servitù che può prendere. Oggigiorno è più elegante fartelo da sola, così fai la palestra ecologica, ti fai una bella ginnastica e ti fa bene allo spirito, rifletti, ti rendi, sì, conto, certo, in quale situazione ci troviamo. Sai come la penso io? Come la pensi? Prima dare l'esempio per essere rispettata. Certo, per cui tu praticamente, sì, prendi il secchio, lo riempi d'acqua e lo butti insieme alla servitù. Posso buttarlo anche addosso ad altri, si passano in quel momento. Però insomma stai aiutando la servitù a liberare la strada, questo. Ma per niente, me lo faccio io, lo butto sul giardino così risparmio l'acqua. Ma non ha messo a disposizione delle sue maestranze, le sue innumerevoli maestranze che ruotano in quella villa a disposizione dell'Appia sostanzialmente? Lei, no, le ho messo alla difesa, che adesso è necessaria. Scusi, stanno facendo altre cose, guarda. Marisela, io vorrei capire una cosa innanzitutto. Come trovi questa situazione di Roma, questo sindaco di Roma? Che oddio, voto dà? Dimmi la verità. Che domanda, guarda, voi lo sapete tutti che, diciamo, anzi, te lo dico così, Marino non è un santo della mia devozione. Sì. Perché io, lo sapete, che non l'ho votato. Però io credo che qui si esagera, perché da un semplice uomo si vuole uno che fa i miracoli, e Roma non è una città facile. Lui ha sbagliato tutto, perché Marino è bravissimo nelle campagne di sensibilizzazione sociale. Cioè a fare il medico, dici tu, no? No, neanche. Neanche, sensibilizzazione sociale non è fare, oh, non mi deludere, non è fare il medico. Sì. Io l'ho visto, guarda, l'ho visto qualche anno fa, quando non era neanche in politica, e mi sono iscritta in un'agenda. Sì. Chi è questo uomo? Parlava di solidarietà, faceva vedere. Beh, certo. Poi l'ho rivisto, sì, già da sindaco, ma non in quel programma. Una pippa. Sui manicomi. Sì. Un programma che ha fatto la Rai 3, purtroppo un orario a seguito della chiusura degli OPG. Allora? L'hai visto? L'hai visto che era una cosa allucinante. Vabbè, ma come amministratore cos'è? Allora, però purtroppo lui si trova, non possiamo darle, guarda, te lo ripeto, non l'ho votato, non è santo della mia devozione. Ma non è tutta colpa sua. Però considero che è un uomo che ha fatto degli sforzi, perché tutti questi problemi di Roma non dipendono dalla sua amministrazione. È un problema che nasce molto prima, hai capito? Sì, senti, ma non è la sua. Scusami Marisela, ma adesso quali sono le feste che vanno di moda a Roma in questo periodo? Sì. Scusami. Le non feste. Vabbè, le non feste. Quelle dove dobbiamo travestirci di qualcosa che nessuno pensa che stai andando a una festa. Allora perché ce l'hai allora, scusa? Perché mi diverte, scusa. Ah, ecco, anche appunto. Il travestimento. Per esempio l'altro giorno sono andato a una festa divina, sì, travestita con un pavone in testa. Sì. Bellissimo. Con un pavone. un pavone, sai che cos'è un pavone? Sì, ma un pavone. Un uccello. Sì, un uccello costerà un sacco. Ma come, ma contento? Un uccello che sarebbe, sarebbe, per la verità, un volgarissimo gallo, come si chiama, cedrone. Ma che uno va in giro con un gallo in testa, scusa. Ma sarà un pezzo di cosa? Ma sarà un pezzo di... Tu adoreresti. No, io adorerei sicuramente... Ma io non giro assolutamente con degli uccelli in testa, scusami, dai. Però tutti avevamo l'uccello in testa, vabbè. Quasi, ah, tutti con l'uccello in due testa. Cruciani, guarda, due cruciani, ma scusa, ma costerà un sacco di soldi questo uccello? Diciamo la verità, no, Marisella. Veramente appartiene a una delle più grandi case uccelli. Si dice cinematografi, di archivi meravigliose romane. Appunto. Chieli, sartoria. Ma tu vai addosso. Grazie per avermela imprestata. Tu vai in giro per le feste anche con dei gioielli pazzeschi, diciamo la verità, con dei gioielli. Tutti falsi, guarda. Ma come tutti falsi? Dai. Tutti falsi, accontentiamo così la cattiveria. Ma stai sentendo la crisi ancora oppure no? La crisi non io la sento. La crisi? Sì. Ancora? Sì. Io questa crisi già te ho detto la mia. No, ma è passato un sacco di tempo. Volevo... La crisi è, non può continuare una crisi. La crisi è un attimo. È un o attimo, muori sì. o superi, o reagisci, o non parlare di crisi, perché allora dagli un altro nome. Questo diamo un altro continuare. Nome, diamo un altro nome. È faiblesse, è debolezza. E non dico altro perché sennò mi giudicano come non devono. No, la crisi è... Scusami, voglio sapere questo, Marisela, scusami carissima. Quali saranno le tue, siccome ormai la Zanzara va alla chiusura di stagione, torniamo a settembre, le tue vacanze quali saranno, cara? Dove vai? Molto in famiglia. In famiglia, oggi ho mandato, appunto, oggi ho mandato un messaggino, farò un ritiro spirituale per cercare di capire questa bellissima e meravigliosa... umanità. Ah, un ritiro spirituale perché dove? Scusa, contessa. La spazzatura, e voi che parlate della spazzatura di Roma, sì. È nell'animo umano. E dove lo fai questo ritiro spirituale? Nella falsità, certo. Nel tradimento. Ma dove lo fai questo ritiro, cara contessa? Io lo faccio in Inghilterra. Un ritiro in un spirituale. Posto isolatissimo, che erano antiche terme romane, molto bello, molto decadente. Costerà un sacco di soldi, sicuramente. Ma sono ospite. Sei ospite, ma tu non paghi mai niente, questo è il punto. I ricchi non pagano mai. I ricchi non pagano mai. Senti un attimo, ma tu incontri Zingari? Sono ospite di mio figlio che vive là e lavora moltissimo. Ma tu, scusami un attimo, Marisela, ma incontri mai Rom Zingari? No, perché credo che la metro. Io l'incontro perché ricordati che sono su una strada che è la Regina Viarum, ma qui dietro c'è una realtà. Io sono vicinissima a Torbe la Monaca, vado al Tor Vergata spessissime per mie ragioni personali. Ma vogliamo chiuderli questi campi Zingari? Ti danno un fastidio no, pure non, a te? No, no, no, brava. No, no, non si può, non si può buttare quella gente, perché guarda che quella gente ha un'istoria. E come e poi viene il rimorso. Dai, tu hai visto quello che hanno fatto, per esempio, nel mio paese? Ma certo che non ti danno fastidio, tu non giri in metropolitana, non vai in metropolitana dove ci sono quelle le signore con la mano zozza che ti rompono i coglioni, dai. Nel Sud America c'erano i Caribes, c'erano le Azteca, i Mayas, gli Inca. E noi abbiamo i Rom. Oggigiorno è una vergogna avere schiacciato una cultura che non era Europa. Ma tanto a te che te frega, loro. Mica vai in metropolitana. Come? Tanto tu in metropolitana non ci vai, che ti frega? Mica io ho preso la metropolitana. Ma quando l'hai presa? Una volta in vita tua l'hai presa, dai. No, Marisella. Sono andata anche a Piazza di Spagna perché sennò mi beccavo una multa. Ma una volta sei andata, dai, su. Senti, ma tu Bertinotti lo incontri mai alle feste che dice di essere stato rovinato? Bertinotti lo adoro perché è un uomo che ha una testa, intelligente ed è coraggioso e dice quello che pensa e riconosce i suoi esuali. Ma lo incontri alle feste, sì, ogni tanto certo sì. Perché l'incontro, una persona amica. E dice di essere stato rovinato da queste feste? Ma se lo dice lui avrà ragione, perché è un uomo che sa quello che dice. Sì, Malgrado quell'immagine che hanno voluto dargli, e lo sai che l'incontro perché è venuto anche a casa mia certo. Tante volte, poi sua moglie è una donna deliziosa. Una gran signora. Una gran signora, certo. Lui ha capito molto bene che ha lasciato scontento qualcuno, tanta gente che di lui aspettava altro. ognuno fa quello che vuole. Comunque il pavone è meraviglioso, Parenzo. Il pavone in testa. Parenzo, il pavone? Il pavone in testa. Le ho cantato alla luna per non deluderti. Il pavone in testa. Cosa ha fatto? Ha cantato alla luna per non deluderti. Va bene, ci... Marisela, tu lo sai che io preferisco te a una giovane ragazza. A una giovane... Ma spero bene. Sei una... Com'è tutto, che si dice in termine? Tutto fumo e niente arrosto. Tu parli troppo di sesso. Non va il sesso parlato. Il sesso né si parla, né si racconta, né si conta. Si fa, dici, si fa. Beh, fai quello che ti pare. La cougar, dirlo. La cougar. Un abbraccio. Oh. Un ciao. Abbraccio a ciao, voi, cara. A buone vacanze. Ciao, Crucial. We don't need no education. Ciao, Crucial. We don't need no thought control. C'è sempre meno figa. Da voi in trasmissione. La la ragazzi, buonasera. Luciani, Luciani, perdi un sacco di cazzate. No ragazzi, però quello che ho detto prima non è una cazzata, eh. Cioè, adesso, come sapete, qui si gioca molto su, sul simile, sul vero, verosimile, gossip, cose. Le cose che diciamo spesso sono... No, sono vere, ma dette in modo leggero. Ma sono vere, non è che diciamo... Stasera hai aperto la trasmissione con Ferrara. No, ma che c'entra? Quella è ieri. Eiaculando tutte e due. Ma quello è l'altro giorno, dai. Certo che chiamano certi intellettuali qui. Mamma mia, amico mio. Pronto? Allora, la notizia con cui abbiamo aperto questa sera è questa. Poi naturalmente arriveranno le smentite come al solito, eh. Però io ve la do per come me l'hanno data. La padrona di Dudu, cioè Francesca Pascale, ha lasciato Arcore ieri sera per una crisi, una rottura con Berlusconi, una rottura che non si sa se è temporanea, breve, brevissima, lunga, non si sa, solo il tempo lo potrà dire. C'è stata una lite sull'esposizione mediatica di Francesca Pascale, per cui noi facciamo il tifo e non pensiamo noi della Zanzara che l'esposizione mediatica della Pascale sia un errore, anzi, vero? Anzi, Parenzo, anzi. Sì, sì, su questo concordo, la linea bene, è giusta questa volta. Questa è la linea di una trasmissione assolutamente questa volta la condivido, sui rom non la condivido, sui migranti non la condivido, questa volta la condivido, condivido la linea. E arriva Parenzo a dire le stronzate, amici, che è tornato fuori dal fritter, insomma c'è stata una rottura in malo modo, poi chissà, chissà cosa può accadere. Intanto sentiamo come riassume la giornata il TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Migliaia di civili in fuga da Gaza, colpita da nuovi raid israeliani. Il segretario dell'ONU, Ban Ki-moon, smettete di combattere, parlatevi. Napolitano sulle riforme invita a non agitare spettri di insidie autoritarie. Le priorità sono la disoccupazione giovanile e la crescita. Al Senato sulle riforme si andrà avanti ad oltranza, nessuna ghigliottina sui tempi, da lunedì previste anche sedute notturne. Il presidente del Consiglio Renzi, supereremo l'ostruzionismo di chi vuole bloccare il cambiamento. Alfano, nessun incontro con Berlusconi. Sì della Camera la richiesta d'arresto per Giancarlo Galan, l'ex governatore del Veneto dimesso dall'ospedale, contesta la decisione dei medici. Padoan, più crescita con flessibilità nelle regole e riforme, allarme dei sindacati, servono nuove risorse, a secco la cassa in deroga. Tutto pronto all'isola del Giglio per l'ultimo viaggio della Concordia verso Genova, il capo della protezione civile, salvo meteoriti. say that on the radio. You can't do that on the radio. Your voice was on the show. My breath stopped and I lost control. Non vi abbandonerò mai. Radio reveal my flaws in pure stereo. A proposito del professor Antinori, dopo il litigio che abbiamo avuto mesi fa qui alla Zanzara con il professore, il Frankenstein della fecondazione assistita, ma detto anche in senso buono, io non è che sono contrario al professore, tutt'altro. Infatti ci ha attaccato in maniera assurda, semplicemente perché l'abbiamo fatto confrontare con Adinolfi, non si è capito perché è impazzito a un certo punto con noi e ha detto vado in tribunale se ti incontro ti ammazzo. Io vado in tribunale, sentito te. Ma scusa, mi hai detto che l'altro giorno tra l'altro l'hai incrociato per strada. No, due settimane fa, stavo passeggiando a Prati, via Colla di Rienzo. Passeggiato col bambino, no? Col bambino, al seguito, no? Col bambino, col bebè, col bebè. Mettetemi dopo una canzone sui bebè. Allora, stavi col bebè, passeggiavi tranquillamente con un bebè per Prati. Stavi facendo tesoro, vogliamo passare tutta la giornata insieme. Oddio, adesso arrivo. Si è messo a ridere, visto tesoro? Hai visto, cara? Ha fatto il sorrisino. È roba pazzesca, dai. Dall'altra parte della strada, mentre io ero in questo momento di intimità con l'enfant, mi sento gridare: tu sei un criminale! Sei un criminale! E come si è? E vedo questo signore coi baffi che urla e che arriva, attraversa, fende la strada, insomma, è la pila di macchie. Tu sei un criminale, tu, quell'altro stronzo lì, due criminali. Io te lo giuro, mi guardo in tribunale. Criminali! Ma ha spaventato l'infama. Tant'è che oggi abbiamo provato a chiamare il professor Antinori. Pronto? Pronto, professor Antinori? Di chi parla? È Radio 24, Sole 24 Ore. Sì, mi dica. Senta, se... Sono impegnato, mi dica. Velocemente, le volevo chiedere se era possibile fissare con lei un appuntamento per un'intervista in diretta questa sera. No, dopo le 6, verso le 6:15, 6:30. Ma questa sera la Zanzara di Cruciani e Parenzo? No, Zanzara lascia per niente, mai più lì. La ringrazio, arrivederci. You can't do that on the radio. Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiedere che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non sei lontano da me perché tu sei un delinquente. Arrivederci. Mi porto in processo, stupendo. Giorgio da Roma. Salve. Vai. Senta, mentre attendevo, grazie intanto di avermi richiamato. Dimmi, Giorgio, dai, forza con sto richiamato. No, sì, vabbè, senti, mentre attendevo nel torpore ho sentito quella nobile donna che parlava. Cosa diceva brevemente sugli zingari quella signora? Non lo so, non mi interessa, dimmi quello che pensi tu. No, siccome era in tema su quello che volevo dire io, volevo sentire che cosa non lo so, non mi ricordo più, cancello tutto io, vai Giorgio, dimmi. Va bene, allora senti, passami Parenzo, il socio tuo. Ma sta qui, è qui. Sono qua, dimmi caro, sono qui. La nobile donna diceva che non vanno smantellate perché sono creature di I campi rom. Certo, allora, scusi, io mi dispiace usare questo termine frocio che però è stato da voi abbondantemente, diciamo, sganato. Ecco, però primo, mi sembra ecco che sia tu, Parenzo, ecco che la nobile donna... No, idiota sarei te. Intanto io non ti ecco offendo. Ecco il primo idiota che chiama. No, ecco allora, il primo guarda, che chiama. Guarda, avanti, subito, non ti permettere. Allora, tu di che fate... che hai cominciato a offendere subito dicendo sta a fare frocio al culo degli altri? Oh, maleducato! Ma con chi chiedi di parlare? Maleducato. Veramente non ha detto nulla. Maleducato. Non ha detto nulla. Maleducato, guarda. maleducato, io ti dico maleducato. Da Parenzo, lo, senti, hanno Parenzo, lo hanno sentito tutti, maleducato. Lei è un maleducato. Guarda. Dimmi Giorgio, vai. Allora, purtroppo, vicino a un campo rom, non su una villa Laventino o... Dai, metti, parla meglio attaccato al microfono, su, dai! No, ci vivo io e non Parenzo e non la Nobildonna, e vi assicuro, io vivo vicino al campo rom di Salone. Vi assicuro che io sono la persona meno razzista del mondo, ma che è un inferno vicino. Allora, qui, allora, visto che l'ha detto Parenzo, non l'avevo ancora detto io, veramente è pieno di froci che fanno i froci degli altri. Perché, voglio dire, uno può anche vivere in una bella zona di Roma, eccetera, eccetera, però poi quando si ritrova perennemente affumicato dalle guaine bruciate, perché questi signori rubano i cavi e li bruciano affumicando tutto il quartiere, come ha detto Montesano, sì, l'altra volta, il quartiere è un monnezzaio. Io esco perennemente fuori casa mia, trovo la discarica perché neanche passa il camion dell'AMA, che questi educatissimi signori prendono. Infatti è un problema di integrazione e di ordine pubblico. Chi ha mai detto che è giusto che brucino i cavi, brucino i coperti? Chi ha mai difeso? Ho mica difeso l'illegalità io. Va bene, allora prendono questi dati, li tirano fuori, li spaccano e noi abbiamo la discarica. Allora questi, ha ragione Cruciani, i campi rom vanno chiusi tutti, chiusi. Queste persone o si integrano davvero, perché noi vogliamo messe nelle case popolari, sono d'accordo con lei. Ma quali case popolari? Non gli vanno regalate le case, l'elettricità, perché questi signori al campo rom di Salone li hanno trovati con dei conti in banca che io me li sogno, avevano 100.000-200.000 euro sui conti in banca. Affittassero la casa come fanno tutti i cristiani normali. Guarda, io questa volta mi dispiace, sono proprio d'accordissimo con Cruciani, i campi rom vanno chiusi tutti. Queste persone, se si vogliono integrare, benvenute, si devono trovare un lavoro e devono vivere come persone civili in un contesto civile. Io ho avuto una famiglia rom che ha vissuto sul mio pianerottolo, io era un porcaio, io non potevo uscire di casa. Allora è inutile che ci raccontiamo le cazzate, che mettiamo la testa sotto e facciamo i radical chic, è inutile che facciamo i croci col culo degli altri, visto che l'hai detto te. Allora queste persone benvenute si integrano e se trovano un lavoro. Guardi, e se quando c'è una situazione di degrado, io non difendo il degrado, guardi che si sbaglia completamente. Se quei campi lì sono aperti è colpa delle amministrazioni di destra, di sinistra. Ciao Crucials! Che tempi. Siamo qui la Zanzara con Salvini e quelli della Lega, che oggi che cosa hanno fatto? Hanno coperto Parenzo gli autovelox all'ingresso di Milano per protestare contro la giunta Pisapia, che a loro parere metterebbe troppi autovelox come furto. Simpatica carnevalata, hanno fatto bene, va bello, giusto, va bene, insomma, questo hanno... Beh, giusto, sì. Non ho capito. Ma chi se ne frega, va bene, sì, è una protesta politica, questo non mi hanno fatto di peggio, questo non mi scandalizza, va bene. Allora, che gli autovelox in qualche caso siano una rapina vera e propria, non c'è dubbio. Ma ricordo anche le Iene anni fa, che c'erano i trucchi sugli autovelox per far cassa, i comuni di tutta Italia lo hanno un po' fatto. Però quello che mi intriga di più, quello che mi intriga di più, quello che mi intriga di più della vicenda della Lega, quello che mi intriga di più della Lega in realtà è il direttore della Padania, la signora Lussana. La quale ha parlato di sesso orgiastico l'altra volta, è tornata su questo argomento dall'amico Milan la mattina, ed è tornata su questo in maniera un po' filosofica, un po' alta, su questa vicenda del sesso, su come lei intende il sesso. Poi sarà vero dal punto di vista pratico o no? La nostra dimensione primordiale, l'amore panico, orgiastico, dionisiaco, è una dimensione sana, quasi sana. Ma sì, ma anche quasi rimossa dalla nostra contemporaneità. Riscopriamo, e tu dici riscopriamo. Abbiamo l'amigdala, no? Che è a capo di tutta la nostra dimensione istintuale, e facciamola un po' vivere questa dimensione primitiva. Dimensione primitiva istintuale. Mi dire, lo sai che mi arrapa tantissimo, signora, come si chiama? Lussana, si la saluta, mi arrapa da morire, canzone, mi arrapa tantissimo, mi arrapa tantissimo. L'ho incontrata una volta quando ho messo la firma sul referendum per l'abolizione della Merlin, no? L'ho incontrata, sì. Mi ha arrapato tantissimo, io l'ho detto perché non mi sembrava il caso, però mi ha suscitato... Lo stai dicendo adesso semplicemente a milioni di persone, ma poco male, insomma. Mi ha suscitato una certa emozione, insomma, quando l'ho incontrata, però così, en passant, poi me lo sono dimenticato un secondo dopo. Mi verrebbe da dire, dopo averla sentita citando la famosa canzone Padania, bella e libera, orgia avanti. Ancora il sesso by Lussana. Internet è pericoloso perché ci ha portato a questa deriva di picabiale, macchine sterili. Ormai noi siamo questa sessualità eterodiretta e commercializzata, sì. Totalmente genitale. No, è una cosa gravissima. Ma è gravissima. Sessualità etero, però parla come magna, Lussa. Sessualità eterodiretta, che ha detto commercializzata e vaginale? Risentiamo un attimo, scusa. Poi internet ha rovinato. Questa è della scuola Rocco Siffredi, che ha detto che YouPorn ha traviato i giovani. Sentiamo il direttore della Padania, Lussana. Internet è pericoloso perché ci ha portato a questa deriva di picabiale, macchine sterili. Ormai noi siamo questa sessualità eterodiretta e commercializzata, sì. Totalmente genitale. No, è una cosa gravissima. Ma è gravissima. Sessualità totalmente. Io veramente in questo caso, signor Lussana, spiegati in maniera chiara per la gente comune, per il popolo. Voi non siete, quindi non vi rivolgete al popolo, no? La Lega si rivolge al popolo, spesso c'è questa cosa. Dovrebbe. La gente, il popolo. Che cosa capisce la gente, il popolo, dal direttore della Padania? Parli più chiaro, parli diretto. Gandolfo da Palermo. Pronto, sì. Io Gandolfo sono. Aspetta, Gandolfo, c'è una cosa che ha detto Moni Ovadia. Fermi tutti. Sio Moni Ovadia, il signor Ovadia. Ma che siete? È un amico. Aspetta, Ovadia, il mio essere ebreo mi fa stare dalla parte degli oppressi. In questa vicenda gli oppressi sono i palestinesi. Non parliamo di terre contese, ma di terre occupate. Ho imparato dai profeti di Israele che bisogna essere al fianco dell'oppresso. L'ebraismo è una cosa, lo Stato di Israele è un'altra. Finché i mediatori saranno gli Stati Uniti non c'è soluzione. Non è un mediatore neutrale, sta dalla parte di Israele. Vedo un avvenire terrificante, purtroppo sarà una catastrofe anche per Israele, perché opprimendo gli altri perdi anche tu l'anima e diventi un aguzzino. L'amico tuo Ovadia, te le canta anche a te, Gandolfo, vai. Allora, parlo con Cruciani? No, con mio nonno in carriola, con chi diavolo parli? Non ti avevo riconosciuto. Come non mi avevi scusato? Aspetta, però qua bisogna stare calmi, Gandolfo. Scusi, lei ha chiamato Radio 24, Sole 24 Ore, trasmissione La Zanzara, condotta così per caso dal signor, uno da un tizio che si chiama Giuseppe Cruciani. Accanto a lui c'è, nel 99,9% dei casi, anzi no, nel 100% dei casi, un signore che si chiama David Parenzo. Benissimo, tu chiami a un certo punto, dici: pronto, lei è Cruciani? Fatto sì. No, non ti avevo ma cosa significa non ti avevo riconosciuto? Ma com'è possibile? E il conduttore? Sono un po' emozionato. Vabbè. Perché siete spettacolari e fantastici. Vabbè, dai, adesso a parte i complimenti, che non me ne frega niente. Io, vai. Uscirò un po' fuori tema. Io dico sempre che quel frabusto e assassino di Schettino, sì. Che il drammatista Turro lo fa camminare con vestiti in cravatta in camicia bianca. Sì, è vero, è andata una festa. È andata di sopra, numero uno. Poi io su Berlusconi. No, scusi, Gandolfo, fermiamoci su Schettino. Lei dice quel farabutto di Schettino che si permette di fare una festa a Ischia, credo abbia fatto una festa, con tutti vestiti di bianco e lui al centro della festa. Uno potrebbe dire Galan in galera, Schettino fuori. Sono due vicende diverse, però oggi ho sentito anche questo. Vabbè. Ha fatto centro, Cruciani, ha fatto centro. Vabbè, allora? Allora dicevo questo qua, ma non è una magistratura così irresponsabile permetta a questo assassino farabutto di camminare con 32 morti sulle spalle dicendo che la colpa era di un altro, ecco, mi interessa a me una Ferrari, una Formula 1, dice, chiedo a questa macchina, fatti un giro. questo va a dare una nave di quella portata più grande del Titanic a uno che non capiva neanche l'italiano. Cioè, tutto ciò come è permesso, a permettere ancora questo di vedere la sua opinione, la magistratura che lo fa camminare per strada e buttarlo in galera. Quello prima dovrebbe avere 32 anni, quante sono un anno per ogni monte che ha sulla sua spalla. Purtroppo non posso essere accontentato. Ma sai che non ho capito una parola, una? No, la seconda parte su Schettino abbiamo capito, la seconda parte non abbiamo capito una mazza, manco io ero distratto, Gandolfo, mi so... No, io non ho capito una parola, Gandolfo, Castel Gandolfo, una parola non ho capito, caro Castel Gandolfo. Davide, no? Sì, Davide, allora? Fratello, non ho capito nulla, fratello, scusami, ma no, davvero. Parlavo io di Schettino, che come la misura permette che questo assassino farabutto cammina libero, col vestito, per la strada, fa feste, con 32 morti sulle spalle. Questo permette di essere condannato a 32 anni, ogni morto un anno di galera. Ma c'è un processo in corso fino a qua, ho capito, lei parla del buon gusto di organizzare una festa, però attiene al buon gusto, non al fatto che non lo possa adesso fare. Uno può organizzare una festa anche finché non è stato condannato in via definitiva, certo, uno può organizzare tutte le feste che vuole, scusi. Ma ormai diciamo certo, voglio dire, se quello tra l'altro pensa di non essere manco colpevole, appunto, pensa di non essere colpevole finché una volta condannato in galera per omicidio, non quello feste. Che non farà più feste perché non può, oppure farà la festa in cella con i suoi con chi sarà magari in cella. Fosse vero. Magari fosse vero. Vabbè, Gandolfo, arrivederci, grazie. Monica da Roma, Monica. Buonasera a tutti. Vai, dimmi. Senti, volevo dire, ho acceso prima, ho sentito quella baggianata che ha detto Parenzo sull'integrazione. Sì. Siamo le case popolari, i Roma. Sì, le case popolari, l'integrazione, okay. Solite puttanate. Esatto, sì, allora io ti faccio un esempio, non so se Parenzo dove viva. Io ho mia madre che dopo 40 anni di lavoro prende 950 euro al mese e ne paga 6,50 d'affitto per 24 metri a via Tuscolana. E ti dico onestamente che è aiutata da noi figli per campare, perché se no non se la farebbe. Alcune di Roma mi hanno detto per la casa popolare se è una conoscenza gliela diamo, se no la gradatoria ultima è uno rimane. Ma fai finire il ragionamento, Ho preso pazienza, Parenzo, ma chi è dalla montagna dell'Orsa bene viene, si dice a Roma, no? E io onestamente i Rom sono nomadi. Ma girassero, ma perché devono essere stanziati? A nessuno è impedito di girare, no? Di prendere i carri e girare, o come si faceva una volta, o le macchine in questo caso, e girare per l'Italia. Uno è nomade. Sì, allora so cade anche la motivazione dell'essere nomade, no? Se sei stanziale non sei nomade. Giusto, invece voglio una casa col caminetto. Io non so se avete mai visto la Romanina, hanno fatto un campo nomade, una cosa bestiale, patetica, capito? Hanno chiuso un pezzo di strada, gli hanno dato tutto quello che possono avere, come dicono tanti ascoltatori, da dentro ci sono i Mercedes, i SUV, le Porsche. Quindi, senti, Parenzo, dovresti vivere forse un po' più la realtà di Roma, di gente. Guarda che si alza la mattina... Guarda che io la realtà di Roma la vivo, ho detto se capisco perfettamente, signora, il dramma di sua madre, dopodiché dico che le politiche sociali... Oddio, con queste politiche sociali non costano. Ne posso più. Cioè, non è che siccome sua madre non ha avuto la casa popolare perché le hanno risposto deve conoscere qualcuno, che è uno scandalo, lei dovrebbe denunciare il funzionario pubblico che le ha detto questa cosa, perché se le hanno davvero risposto che per avere una casa popolare sua madre deve conoscere qualcuno, questo è lo scandalo, ma vabbè, non tanto sì, ma... che... No, lei si rifà la signora. No, ma Monica diceva che tu. Ok, te la dico ancora più grossa. L'integrazione costa. Allora, non è che uno arriva qua, è come il discorso che facevi ieri dei migranti che vengono qua, che non mangiano il maiale, e tu gli dicevi chi se ne frega, muoiono di fame perché o mangiano la roba nostra o se ne tornano a casa loro. Questo dicevi. L'integrazione sotto tutti gli aspetti costa. Vabbè. Ma è un costo che ci ritorna, che sono soldi ben spesi poi. Ecco, è questo qua. Antonio da Rovigo, sono soldi ben spesi. Bravo, Antonio da Rovigo. Hai detto la tua cosa. Hai detto la tua cosa di sinistra di stasera. Antonio. Non c'è Mario da Roma. Mario. Pronto? Sì, dimmi. Stavo addormentato. Senti una cosa, parlo con Radio 24? Dai, su, non fare lo stupido, dai, Mario. Volevo parlare di Froci. Dai, vai. No, niente, io niente, praticamente volevo dire questo, che ascoltavo un'altra trasmissione prima, Zapping, ma poi quando l'ho sentito non ho resistito, voi siete proprio ora la cosa troppo forte, ma voi siete il classico esempio che il potere in Italia non va conquistato ma va arraffato, cioè voi siete quello che diceva il professor Zecchi quando lo invitava in trasmissione, no? Che è facile fare audience, tu metti un gruppo di persone, due cominciano ad alzare a parte la voce, che è facile, a parte che è facile un cazzo, a parte che è facile, a parte che è facile un cazzo, Mario, no, non c'è niente di facile qui, non c'è niente di facile qui. Tu ascolti un attimo e capisci quello che ti sto dicendo. Il professor Zecchi diceva che... Ma chi se ne frega? È un po' come un gruppo di persone, ma tu che cazzo, lui ma state zitto, ma non sta zitto a quello che sto a parlare. Quando ma non ha detto niente, si è messa a ridere che manco può ridere adesso. Ma ho capito, ma fammi finire il concetto, tu ti metti ancora prima. Vai. Allora, se so dire che se tu metti un gruppo di persone in mezzo alla strada, giusto? E che parlano tra di loro, a un certo punto due cominciano a alzare la voce a litigare tra di loro, chi è che attira di più l'attenzione? Chiaramente quelli, mica l'altro. Non è così come credi. Come no, è così. E poi vuol dire un'altra cosa, visto che voi avete questo modo di fare trasmissioni che dite, tu lì, quello è lo stronzo, si è la mignotta, tu allora forse ha detto che si è più la mignotta, allora voi più che la zanzara, dovete chiamare la zizzania, hai capito? È arrivato il genio qua, è arrivato il genio. Ciao Mario, dai, ciao. Che non è male, dai, ciao, ciao. Ciao. Il professor Antinori, abbiamo ricevuto oggi che cosa? Un nastro, una cassetta, come dice Berlusconi, no? In cui c'è la voce del professor Antinori. Sì, c'è stata una telefonata, così risulta, del Papa al professor Antinori. Ma noi abbiamo ricevuto il nastro. Pronto? Professor Antinori? Buongiorno, sono Monsignor Fabbri della Segreteria di Stato Vaticana. Segreteria di Stato Vaticana, mi dica. Sì, mi scusi, io ho in collegamento il Santo Padre che vorrebbe parlare con lei. Il Santo Padre, scusate. Posso passarle il Santo Padre? Il Santo Padre vuol parlare, grazie. Sì, rimanga in linea un attimo, per favore. Professor Antinori. Buonasera, caro Santità, io sono commosso da questo, sono emozionato ovviamente con lei. Mi scusi lei se la disturbo in momenti così importanti, difficili. Se mi dedica qualche minuto io sarò profondamente contento. Ho letto i giornali di oggi con queste notizie sulla fecondazione. Sì. Io volevo solo dirle che in nome di Dio si deve fermare. Perché, padre? Perché, professore, la legge di Dio viene prima di ogni altra cosa. Però io vorrei, se lei, questo io sono cattolico, quindi sono stato 10 anni all'università cattolica, quindi lei capisce che un excursus sono un credente, però vorrei avere con lei un colloquio. Senza alcun dubbio, la farò chiamare della segreteria di Stato. La fecondazione artificiale è di fatto un evento, ma come dire, se lei lo conoscerà, che indipendentemente dalla mano dell'uomo, quando c'è un piccolo impedimento, dicono in inglese, sometimes la natural needs a little help, si fa senza manipolare. Io ascolto quello che lei e ne tengo conto, però vorrei informarla bene, dico va bene, per capire qualcosa che è difficile, per carità, lei e sua santità che possa capire questo. E lei, io sono a Roma, mi permette di una volta di fare, io le farò vedere dentro un laboratorio, quello, la vorrò farla vedere l'inizio di una fecondazione, per capire quell'evento che avviene da solo. Questo è se lei mi parla. Sa professore, io penso che avere figli è importante, ma la scienza non può sovvertire l'ordine naturale delle cose. No, ma noi non sovvertiamo, ecco qui il grande equivoco, il grande mistake, noi non sovvertiamo l'ordine naturale, noi aiutiamo l'ordine naturale per quando noi avviciniamo un gamete, un ovo, quando, quelli vanno da solo a svilupparsi, ecco il grande, la grande, diciamo, mistificazione e informazione sbagliata fatta a lei. Se lei venisse nel nostro laboratorio, se lei ha modo di capire questo evento che è naturale, allora penso, escludendo i casi innaturali, che capirà che è un evento naturale, che dopo 10 milioni di nati nel mondo, Santo Padre, che dice? Pensa che Dio è contrario se l'evento è naturale? Questa è la domanda. Poi lei è Santo Padre, io lo rispetto. Capito? Io però volentieri se potrò, adesso purtroppo non ho molto tempo, ma non ha mai avuto un attimo di reticenza, di contrizione? No, poi spiego perché. Perché io ho fatto in modo che aiutare la vita, quando pensa a questi 100.000 nati o milioni di nati dalle mie tecniche e anche dal premio Nobel, Robert Edwards, questi 10 milioni è frutto di questa, di qualcosa, probabilmente io che ho vissuto nel mondo cattolico, mi ha dato per dare la forza, guardi un po' che caso, 10 anni al gemello, sono onorevole perché non ho altro che vedere bambini nati che stanno bene e sono contrario a ogni distruzione di ogni cellula che questo è il punto dove lei ha non ragione, ha mille ragioni, perché questo non si può mai uccidere un embrione. Quindi io sono commosso Santo Padre che lei mi ha chiamato e per me il cuore. Perché per me è una cosa difficile, professore, ma visto che lei è cattolico, perché oggi leggendo i giornali di oggi, perché lei parla tanto, ce l'ha tanto col ministro Lorenzini, è una brava cattolica? La conosco Lorenzini, è una brava cattolica, però non ha, si è messo intorno dei consiglieri che non gli danno giusti consigli, come quelli spesso che sono anche intorno a lei, in Vaticano spesso, però io gliel'ho detto, mi chiami? Io sono il presidente dell'Associazione Mondiale di Medicina di Riproduzione, ho 1000 scienziati di 50 paesi, compreso il dottor Marconi di Buenos Aires, che mi apprezza e mi stima, quindi non è che sono isolato. Io credo che era giusto che mi chiesto, non me la prendo con Lorenzini, però vogliamo fare le linee di protezione degli embrioni, questa è la cosa più importante, per proteggere che nessun embrione venga distrutto, questa è la cosa che lei, come Santo Padre, come deve, giustamente mi deve chiedere, non lo deve, nessuno lo sa, ma se non lo mettiamo per iscritto, Lorenzini, quello è il punto fondamentale, nessuna cella, nessun embrione può essere distrutto. Questo io ho seguito questo credo e quando mi sono sempre confessato, tutti mi hanno dato tutte il 90% delle coppie mie hanno avuto il battesimo assolutamente in tutte le chiese. Quindi io, la sua telefonata mi commuove, ovviamente mi dà una forza di essere ancora più presente, però vorrei fargli capire che c'è una grande incomprensione. Quando il Cardinal Tonini, lei se lo ricorda, è morto, poi sono andato a trovarlo, lui venne in laboratorio e capì queste cose. Se lo ricorda il Cardinal Tonini, il Cardinale Emiliano. Pronto? Anche l'anticlericale, anche il professor Antinori, quello che più attacca il Vaticano, una volta che sente la voce del Santo Padre si commuove e gli si stringe il cuore. Sono credente, venga al mio laboratorio, le faccio vedere che è tutto naturale, tutto normale. Venga al mio, ma ti pare che il santo, come puoi invitare il Papa al tuo laboratorio, Antinori? Ma come cazzo si fa? arrivano intercettazioni pazzesche, questo nastro che abbiamo ricevuto. Ma nastro, io sono come cattolico, dice... ma tutte le volte che viene da noi dice delle cose terribili. Dice, sono emozionato. A un certo punto abbiamo ricevuto però un altro pezzo. Abbiamo ricevuto un altro pezzo. Aspetta, aspetta, abbiamo ricevuto un altro pezzo. Aspetta, aspetta. Sono Monsignor Fabbri. Monsignor Fabbri. Sì, è caduta la linea. Le ripasso il Santo Padre. Abbia un attimo di pazienza. Sì, scusi le linee. Professore, mi sente? Sì, la sento. Sì, non ho, probabilmente ho perso qualcosa che lei mi stava dicendo. Mi interessava sapere se era rimasta veramente fecondata questa persona da cui si leggeva sul giornale. Assolutamente sì, sì. Assolutamente sì, e se quando ci sarà la nascita spero di far fare un battesimo in San Pietro. Sarebbe molto bello, dovremmo parlare... Ti rendi conto? Ha detto, ha confermato che questa fecondazione di cui si parla in queste ore è avvenuta. Lo ha detto davanti al Papa. Non è che uno può mentire di fronte al Papa. No, ma bellissimo, lo vorrebbe portare al battesimo. Dove è un il genio. Battesimo a San Pietro! Vuole fare il battesimo a San ma Pietro! Ma perché cascava la linea sempre? E che ne so, ma lo sai, quello poi già non si capisce una mazza quando parla. Vabbè ragazzi, su, questo era il nastro che abbiamo ricevuto, la cassetta, come direbbe Berlusconi, che abbiamo ricevuto della conversazione tra Papa Francesco e il professor Antinori, l'anticlericale per eccellenza, uno degli anticlericali, come l'altro, come si chiama l'altro? Odifreddi, il quale di fronte al Papa sbraca totalmente, totalmente no, devo dire che Antinori ha detto, beh no, però dicono un sacco di fesserie, deve venire al mio laboratorio, vedere, in realtà io faccio nascere un sacco di gente, cosa c'è di più bello, di straordinario, anzi voglio conservare gli embrioni, le cose, proteggere, eccetera. È stato educato, non è che poteva dirglielo Ior, poteva, insomma, dai. Certo, ma, però la Lorenzina ha detto no, la colpa non è della... Prima massacra la Lorenzina, poi di fronte al Papa dice no, ma la colpa è dei consiglieri. Sei Cruciani, se non sei Cruciani ti mando subito a fanculo. Che tempi. T'hanno pizzicato, eh? Ha chiuso. Questo proprio no. Emilio? Emilio, non è giornata, va bene? No, Emilio, scusa un attimo. Emilio. Aspetta un attimo. Aspetta, Emilio. Ma Emilio, chi è questo maledetto che ti ha registrato le cose? Chi è? Questo maledetto che mi ha registrato le cose chiama Gaetano Francesco Ferri. Se qualcuno si preoccupasse di capire chi è, nei confronti di questo qui, io già a febbraio alla Procura di Roma avevo presentato un esposto denuncia e anche a maggio, quindi poco tempo fa, alla Procura di Monza avevo presentato una dettagliata. Sì, ma me lo ricordo, ne hai parlato, sono Giuseppe Cruciani. Anche da noi ne hai parlato. Ne hai parlato anche da noi, ma non è uno che ti voleva molestare, siamo noi della Zanzara. Ah, ecco, sì, adesso ho capito, scusa. Scusa, mi hai mandato a fare in culo prima, Emilio. Ma certo, compare sconosciuto. Lo so, ma lo sai che parliamo dal centralino, Emilio. Mi dispiace infinitamente. Infatti. No, ma volevamo salutarti. Aspetta, facciamo un abbraccio collettivo a Emilio, scusa. Ti abbracciamo fortissimo per questa storia vergognosa che è venuta fuori oggi. Ma ce n'avevi già parlato tu. Ce n'avevi già parlato. Avevo parlato, ma scusate, ma di più... Avevo già la Procura di Roma presentato denuncia, querela. Sì, ma lo ricordo, lo ricordo perfettamente. Questo è un delinquente che sta sul basta vedere Google. Lui c'è Google, Gaetano, com'è che Google. Gaetano Francesco Ferri, disertore a 27 anni, arrestato alla stazione di Milano, sì, mentre commetteva delle truffe, scusate, sì, sì, travestito da maresciallo dei carabinieri. Ti puoi immaginare? Ma scusami, perché c'è sempre tutta sta gente in giro? Amico, ma com'è mio, che, se, che questo è diventato il tuo personal trainer? Scusa, è uscito dal carcere, sì, si è presentato una prima volta, non l'ho ricevuto, la seconda volta si è presentato con una compagna, moglie che fosse, sì, chiedeva di poter lavorare e l'ho aiutato, nel senso, sì, lui è uno. Ma dove si è presentato? Uno che esce dal carcere si presenta da te? È arrivato in redazione da me, ha chiesto aiuto. Quanta gente si è così in redazione da te? Uno esce dal carcere e si presenta da te in redazione. Sì, ma è uscito, mica ha finito, ha scontato quello che doveva scontare, era libero, è venuto a cercare lavoro. E io voleva fare il personal trainer, sì, e anche lavorare con una palestra. Ma chi te l'ha presentato questo qua? Chi è che no, è venuto lui, dice che è venuto. Aspetta, lui. Aspetta, no, te l'ha presentato qualcuno, sicuro. Cioè, è stata una polpetta avvelenata che ti hanno dato. Che gliel'ha presentato, bravo, per forza, sì, certo. Sì, bravo, hai indovinato. Chi è Davide che dice quello? Sì, sì, ho detto, sì, io, l'ho, sì, detto, sì, io, la polpetta avvelenata. Hai ragione, Qua ho voluto, a nome di un certo qualcuno che è inutile citare, che era in carcere con lui. Sì. Lasciamo perdere. Ecco, allora, quella cosa grave, questo è il punto. Questo è, voglio dire, ha detto delle cose pazzesche. Io sono stato interrogato a Palermo. No, ma adesso andiamo nel merito perché bisogna dire le cose come stanno, perché sono uscite delle cose gravi che tu avresti detto su Berlusconi, gravissime. Ma pazzesco, ma guarda, è un atto di delinquenza di questo qua, che poi è andato in giro a vendere questi nastri che erano stati montati, sì, anche a direttori, a persone, sì, ha detto delle cose, io non ho mai detto, figurati. Io ho detto, tu avresti detto Berlusconi, mafia, denaro, mafia. Questa è la storia di Berlusconi che avresti dipinto, Emilio. Ma allora, e ti pare possibile? C'è qualcuno che ci crede? Ma no, io non ci credo, ma però... No, ma dico in generale, sai cos'è? Che le cose dette lì, da questo, riguardano tutto ciò che era sui giornali. Cioè, diceva la storia di Berlusconi, ma perché è stato massacrato questa storia, la mafia, delle cose, eccetera. Cioè, era il senso di tutto ciò che era completamente sul giornale. Ma poi questo qui, ripeto, montava dei nastri, va bene? Montava, sì, dei nastri e li portava poi in giro per venderli. L'ha portati in diversi posti, per l'anno, sì, fuori. Sì. E riusciva, ecco, quindi... Ma tutto questo non c'è. Cioè, allora, da questa conversazione che lui ha registrato, è già questa una follia, uno che vede là e si mette a registrare Per un anno e mezzo. No. Lui ha detto che mi ha registrato per un anno. Te l'ha mandato? Si può dire chi te l'ha mandato questo qua? Chi te l'ha mandato questo qua? Sai perché non lo dico? Perché? Lo dico subito. Perché poi questa persona che lui dice mi ha dato, quando gliel'ho chiesto, mi ha detto no, direttore, io questo in carcere, lui era in carcere, questa persona non l'ho mai conosciuto. Lui, quando un giorno gli ho detto scusa, ma perché sei venuto da me? È perché tu sei un personaggio famoso, perché tu, quindi capisci, per lui ero la persona, poi alla fine ricattabile, no? Allora, tu avresti detto la sua vera storia, Berlusconi, mafia, soldi, mafia, no, dell'utile lo sai e ci mangia sopra, cioè questa è la sintesi di quello che avresti detto. Ma no, guarda, io di dell'utile, io parlo di quello che ho risposto. Ma uno se lo può fare anche scappare, no? Ma aspetta, no, ai magistrati seri, parlo di Matteo, sì, io quello che ho detto a lui nell'interrogatorio lo sottoscrivo dall'inizio alla fine. Per quanto riguarda dell'utile ho detto persona che conosco, che amo, che voglio bene, sì, abbiamo passato i Natali insieme, la persona è uno che crede, è cattolico, cioè, ho detto le cose, sì, le più, no, proprio le cose migliori che si possono dire, ovviamente, sì, che lui merita. Però ho capito, adesso poi hanno mischiato questo qua. Io poi a Di Matteo, siccome si è parlato anche di questo personaggio, ho detto guardi dottore Matteo, non voglio consigliare nulla, arrestatelo il più rapidamente possibile. Ma come lo consideri questo qua, un pezzo di merda, un trafficante? Peggio, ma come? Ma questo peggio qui pare che era legato anche ai narcos, è un pezzo, un avanzo di galera, vero e proprio. C'è stato un avanzo di galera, certo che uno se è stato a contatto per un anno e mezzo con questo avanzo di galera, com'è possibile sta storia? Va bene, ma ho capito, ma che ne sapevo che teneva? Appunto. Questo qui mi registrava tutto. Ah no, c'è dubbio. A tutti, cioè uno che no, ma la cosa interessante che mezzo, ci hai detto, direttore, la cosa, sì, interessante che ci hai detto, direttore, che è il punto della vicenda, è che questo qui tu ti fidavi di una persona X, no? Ti fidavi, sì, di una... il quale ti ha mandato questo qua, ti ha mandato questo qui per incastrarti, ma questa persona X è un cioè è uno che conoscevi molto bene tu, perché voglio dire, non è che una mano di galera... Guarda, uno ha l'attenzione dalla cronaca in senso negativo, però quando io ho detto a questa chi persona... Chi è? Mora? Scusa, Mora? No, ma no, io non posso fare nomi, guarda, già questo è un tale schifo di storia. Quando ho chiesto a questa persona, ma no, io non l'ho mai visto, mentre invece questo mi diceva che in galera lo aiutava, che lo aiutava a preparare da mangiare, faceva, cioè lui poi sai cos'è, è perfetto nel ricostruire tutto di tutti, perché si documenta. Tu devi pensare che mentre c'era tutto questo casino, 10 giorni fa mi ha mandato a chiedere 300 euro per pagare le bollette. Ma chi? Questo? Sì. Poi cioè questo qua ti ha chiesto i soldi per pagare le bollette? Certo. E non solo, cosa pazzesca. Una volta che ero a Roma, un'altra telefonata. Ma dov'è adesso? Perché aspetta, è un'altra telefonata perché dice che non poteva pagare l'affitto, non so dove. Io ho dovuto chiamare l'autista da Roma e dire per favore hai 300 euro. Allora guarda, portaglieli. Va bene. Cioè, l'hai aiutato fino alla fine? L'hai aiutato? Fino a 15 giorni fa. Una volta 300, una volta 250, una volta 300, una volta perché doveva dormire in pensione perché dovevano verniciare la casa, un'altra volta perché non poteva pagare l'affitto, un'altra volta perché non poteva pagare le bollette. Tutto questo è documentato. Attenzione. Sì, no, direttore, adesso torniamo subito su questa cosa qua, però per chi ci sta ascoltando in questo momento vorrei dire che oggi che cosa è venuto fuori? Che questo signore che si chiama Gaetano Ferri, personal trainer Gaetano di mio fede, Francesco Ferri, nel luglio del 2012 ha registrato una conversazione con l'ex direttore del TG4 all'insaputa di Fede. Che cosa ci sarebbe in questa conversazione? Allora, frasi virgolettate riportate oggi: c'è stato un momento in cui c'era timore e loro avevano messo mangano attraverso Marcello, però era tutto dell'utri che faceva. No, ma c'era questo, le cose raccontate sui giornali quando si temeva il rapimento di Berlusconi, no, e poi le minacce credo i locali che bruciavano, non capito bene, i supermarket, ma tutta quella roba, storia che c'è sui giornali. Tu avresti detto in questa conversazione, devo dire che in questo Mangano è stato un eroe, è morto per non parlare, lo confermi anche per te, è stato un eroe? Questo è stato, lo ha detto e l'ho detto davanti ai magistrati, che questo pensavo, io non l'ho conosciuto. Però, Manca, però lo pensi, poi se non ha parlato, no, pensi, no, che no, sia stato un eroe? Loro dicevano, pensano, che questo poveraccio è stato tenuto in carcere per lungo tempo, fino a quando è morto, perché volevano che parlasse, perché parlasse. Ma no, che lui trasse dentro Berlusconi, va bene, in qualche cosa. E quindi giustamente Berlusconi diceva occupiamoci della aiutiamo la famiglia poveretta, no, di questo qua, capito? No, ma ho capito, ma anche per te si è comportato da eroe, sì, immagino, Mangano. Ma non l'ho conosciuto, non conosco la storia, l'ho appresa dai giornali. Vabbè, comunque un'altra frase è questa, la vera storia della vicenda Berlusconi, mafia, soldi, mafia. È vero che hai pronunciato questa frase, Emilio? Ma assolutamente no, se non può essere un concetto di dire lo hanno tormentato una vita con i problemi di soldi, di mafia, era quello che c'era su tutti i giornali, che avete letto tutti quanti. Ah, lo hanno tormentato, cioè non era una frase fatta così, che la storia di Berlusconi è una storia di mafia, lo hanno tormentato con le cose di mafia, questo hai detto. Esatto, allora, io attenzione, però questa è una parte, io con i magistrati di Palermo... E poi c'è la parte dei magistrati di Palermo in cui hai raccontato un'altra storia. No, ho raccontato la storia. La storia dell'incontro, di questo incontro che dell'Utri ha avuto con chi era? Ma lì è un passaggio di un minuto. Sì. Cioè, capito? Questo è capito. E poi devo dire, io dico a tutti qua, scusate, prendete per atto di quello che io ho detto alla procura di questo incontro tra dell'Utri e Berlusconi alla procura? Quello che ti guarda testualmente. Sì. Mi hanno chiesto lei. Era presente qualche volta quando dell'Utri tornava dalla Sicilia. Sì. E guarda, è capitato una volta. Sì. È arrivato, io anzi per discrezione volevo uscire, e ho detto no, puoi restare. E Berlusconi ha detto come sta Mangano? Sì. E dell'Utri ha detto sta male, sta molto male perché lo tengono sotto pressione. Sì. E lui fa, mi raccomando, aiutiamo la famiglia. Sì. Basta, non c'è stato altro. Non c'è stato altro. Vabbè, comunque. No, ma aspetta, no, ma comunque. Comunque, questa storia è incredibile. Domani uscirà il fatto, domani sui giornali, al di là delle tue smentite, hai parlato con l'ANSA. Ho parlato con tutti. Uscirà la storia che questo signore ti attribuisce delle frasi. Però che lo avrebbe... sento sereno, capito? Vuol dire come che lo senti? Sei incazzato o sereno? No, allora io sono stato gentile con tutti e sereno. Con quello del fatto, ho tentato di spiegargli le cose con molta serenità. A un certo punto, sai qual è stata la domanda? Sì, ma dunque, però con il processo adesso come si inserisce? Gli ho detto, oh, senti, sai che ti dico, ma vaffanculo, e l'ho mandato con tutto il cuore a fanculo, anche perché i colleghi, al di là che siano giornalisti come me, ma l'effetto mediatico, bisogna vergognarsi, va bene, di fare queste cose. Questa è un'operazione brutta, tragica, sporca, quando si prende in considerazione... Chi è che si deve vergognare? Il Fatto Quotidiano si dovrebbe... Chi fa di questa... il Fatto Quotidiano innanzitutto. Ti dico, l'ho mandato a fanculo, però tutto il giorno... E chi era questo del Fatto? Chi era questo? Ma che cazzo, non so come cazzo si chiama, non lo so. Non si fa questo, ma non si fa. Io non sarei capace di farlo nei confronti di nessuno. Cioè, ti rendi conto? Cioè, ma tu, innanzitutto, chi ha raccolto l'eventuale... Io ho denunciato questo, ma già a febbraio... Ho capito, ma la procura allora ha legato, ha fatto male pure la procura a prendere in considerazione queste cose, perché queste qua sono state acquisite nel processo Stato Mafia, là, queste registrazioni. No, allora ti spiego subito. Quello che io credo che sia successo, che questo delinquente, questo è ergastolano. Questo è ergastolano, sì. Ma scusa, non hai un numerino di telefono per caso, Emilio, che gli facciamo una... ma non risponde più, è sparito. È sparito. Ma tu adesso alla segreteria lasciamo il numero di telefono, che dopo gli facciamo una pizzicatina. No. Gli facciamo. Allora, ascolta, io gli ho detto, gli ho lasciato un messaggio. Sei un topo di fogna e basta. Allora, il problema è un topo di fogna. Questo è un galeotto, un ergastolano, un galeotto. Sì. Fatto la galera. Un topo di fogna, vabbè. Topo di fogna. Comunque ti sento che quando pensi a questo tizio qua ti scaldi un po', ti incazzi, quando pensi a questo tizio. No, devo dire, sai cos'è? E mi fa schifo. Questo mi fa schifo, perché io l'ho aiutato in tutte le maniere. Ma guarda, lo sai che è pieno di gente che registra le conversazioni private, te lo posso dire, Emilio? Ma che ne sapevo? Ma sai che me l'hanno registrata pure a me una volta, una conversazione privata? Lasciamo perdere, va. Ma perché frequentate della gente pazzesca voi, ragazzi? Questa hai ragione, ma balla che... Ascolta, pensa che io ho documentato i messaggi che lui mi ha mandato. Li ho documentati, sono in mano alla procura di Monza, alla procura di Roma, dove lui mi dice, ti chiedo perdono. Anche la sua compagna mi dice, guarda, ho saputo soltanto adesso, ti chiedo perdono io per quello che ti ha fatto, perché non lo meritavi. Ma quando? Che ti ha fatto quando? Con questa storia qui di tentare di ricattarmi. Ah, ma non ho capito, perché tu già sapevi che lui aveva registrato delle cose e ha tentato di ricattarti. Esatto. E quando te l'ha detto? Quando te l'ha detto sta cosa? Cioè, adesso la data. Ma quanti soldi ti ha chiesto? Quanti soldi gli ho dato? Una volta 300, una volta 500. Ah, ma 500 euro perché ti ricattava? Beh, in un certo senso, sì, diciamo che... Sì, cioè, capito? No, ma ho capito, lui ti ricatta. Tu l'avevi capita questa cosa, David? Cioè, io non avevo capito bene. Cioè, questi soldi tu non glieli davi per generosità, cioè, glieli davi perché in realtà tu dicevi, lui diceva, io ho delle conversazioni tue, dammi i soldi. Questo è il punto. Sì, esatto. Ma una cosa pazzesca, una cosa incredibile. Pazzesca, ma dico pazzesca. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Vi devo confessare una cosa: le strade in diretta sono una boiata pazzesca. Fate qualcosa, vi prego. Allora, siamo qui con l'uomo del giorno, incredibile, fa ancora grandissima attualità, il nostro direttore preferito Emilio Fede, ex direttore del TG4, nostro amico. Persona per bene. Questo, guarda, Emilio, guarda, io su questo ci metto la mano sul fuoco e devo dire la verità, una cosa. Ci conosciamo da un sacco di tempo, ci siamo conosciuti meglio nell'ultimo anno. Certo. No, però la cosa fondamentale è questa. L'altro giorno parlavamo con Vittorio Sgarbi di una cosa. Che bisogna fare una battaglia dopo la sentenza di Berlusconi dell'altro giorno, del 18 di luglio, bisogna fare una battaglia sul tuo processo d'appello, fede come Tortora, perché questa buffonata di Emilio Fede, assaggiatore, Emilio Fede, reclutatore di mignotte, eccetera, è una cosa ridicola. Può avere presentato delle donne a Berlusconi, chi se ne frega, non è un reato, la smettessero di rompere i coglioni con queste puttanate, dai, su. Uno può commettere errori nella propria vita, può fare un differenze possibili, ma ti assicuro che mi stanno distruggendo la vita. Sì. Mascalzoni, beh, insomma, voglio dire, a parte voi che siete amici, a parte la giustizia che mi deve dare giustizia, la carone me l'hanno fatta. Volevi chiedermi una cosa che riguardava la Pascale. Io ho saputo fai il punto su che dimmi, no, direi, interessante, in 30 secondi col direttore, fai il punto su questa. Allora, c'è questo signore qui che tu hai pagato perché fino a poco fa perché eri sotto ricatto. Questa è la prima cosa che abbiamo capito, giusto? Sì. Quanti soldi gli hai dato in tutto? Ma guarda, in tutto forse 6.000, 7.000, 10.000, più o meno quello. Sì. 10.000 euro sotto ricatto. Ma perché non hai denunziato subito appena questo ti rompe? Perché non lo hai fatto? Bravo, Parenzo. No, ho capito, perché l'ho denunciato subito, perché mi faceva pena, per lui mi faceva pena, dice no, non dire che te, perché sennò poi mi arrestano, perché credo che sia libertà come si è condizionata. Ma questo è un criminale, ma... vero? Cioè... Un criminale, ho capito, però, sì, assolutamente. Uno, conosco, però uno va a denunciare, perché non sei andato a denunciare subito? Ma sì, perché capisci, poi alla fine si metteva lì, mandava messaggi, ti prego, perdonami, cioè, e poi ricominciava. È una topo di fogna. Io lo dico anche a rischio della pelle, perché persone... hai paura che ti vengano a pizzicare? Beh, è una persona legata, se è vero, anche perché una volta mi ha detto io poi non ho paura di niente, io ho avuto 6 coltellate allo stomaco, insomma un personaggio, come detto a Di Matteo, da togliere dalla circolazione dal punto di vista legale, ovviamente arrestatelo. Vabbè, senti una cosa, ho saputo oggi una notizia, cioè che c'è stato un litigio molto forte tra la signora Pascale e Berlusconi, e lei addirittura sarebbe andata via d'Arcore. Ora tu non ne sai niente, ovviamente, immagino, no? No, io mi sono scambiato dei messaggi ancora ieri con Francesca. Era arrabbiata per qualcosa? No, messaggi in senso SMS, quindi SMS, sì, certo. Non poteva trasparire. No. Diciamo che a voler cercare psicologicamente erano messaggi affrettati, insomma, affrettati. Ma no, sì. Ma poi adesso lei non è che siamo mandati dei romanzi, no? Soltanto affetto, simpatia. Io sì. Ho conosciuto lei sempre con molta carineria, con molta cortesia, mai. Ma non le hai chiesto come andava con il dottore, insomma, col presidente, col cavaliere? Se lei abbia delle difficoltà con Berlusconi, boh, sai, non lo so. Però non lo puoi escludere, diciamo. No, ma non credo, per quel che ne so io, fino a quando ho potuto capire, no, nessun tipo di difficoltà. Poi in tutte le coppie c'è sempre un po' di maretta. Assolutamente, magari, dai. Anche altre volte era successo, magari, no? Comunque, guarda, no, guarda, non lo so, comunque però... adesso non lo sai, comunque, guarda, Emilio, no, veramente sì. questo qua andrebbe subito preso, questo tizio che si sta... Io mi stupisco di come tu ti sei pentito di non averlo denunciato subito. Ti sei pentito? Questo è il fatto, però, perché se uno... Attenzione, ultima ora, polizia penitenziaria a casa Galà. Fermi tutti. Mi ha fatto pena. Voi non potete immaginare... Sì. Come poi alla fine si arrotolava nei problemi, nelle cose, ha offerto questi nastri fasulli e ad altre persone, anche a qualche direttore autorevole, che non dico ovviamente, che lo ha mandato a fanculo, capito? No, guarda, però il telefonino Dacci, adesso per carità, quello è stato dalle coltellate, ha preso le coltellate, sì. Però Dacci, ma anche io direi anche, ma perché dobbiamo avere un amico in più? Evitiamo, no? Dici. Allora, polizia penitenziaria a Casa Galan, possibile trasferimento in carcere, attenzione, con la gamba rotta, avete visto in che condizioni. Mamma mia, giornataccia. Polizia penitenziaria a Casa Galan, possibile trasferimento in carcere, attenzione. Che tristezza, che giornata triste, però dai, su, da tanti punti di vista. Lo so. Comunque, guarda, Emilio, però sono cose incredibili. Posso dire una cosa? Dimmi, dici una cosa, sì. Io le parole che tu mi hai detto dopo il confronto con Sgarbi, che so che mi difende e mi vuole bene, io, guarda, sono quelle che mi danno consolazione, ma soprattutto per il rispetto che io devo alla mia famiglia. Questo delinquente io lo voglio vedere in galera. In galera? Mia, sì, è proprio un topo di fogna. Oh, non è escluso, perché lui pare che abbia anche collegamenti pericolosi a nord, ma non me ne frega un bene amato. Ci deve pensare la giustizia a proteggermi, va bene? Io ho fatto lasciamo perdere. Comunque dovevi denunciarlo, te lo dico, vero Parenzo. Ma se capita a me che uno mi ricatta, se io non ho nulla da temere, primo, anche se ho cose scottanti e non le ho, comunque andrei a denunciare subito, scusami, ma io non mi faccio mettere sotto ricatto da qualcuno. Cioè... Ma sì, tu puoi anche avere ragione, ma se questo... Però tu pensavi che queste cose qui erano scottanti, diciamo la verità, tu pensavi che... No, que... ma assolutamente non sapevo cosa aveva, no, assolutamente. Comunque tu non hai mai detto che la storia di Berlusconi è una storia di mafia e di denaro. Allora, io, tu, chiunque, va bene, che legge, che scrive, che riflette, sa che nella storia di Berlusconi questo problema è pesato, no? C'è stato, sì, c'è stato, sì. Il povero Marcello Dell'Utri, che io adoro come è in galera per questa roba qua, sì, cioè concorso esterno in associazione mafiosa. E cosa dicono? Dicono che lui è capitale, non capitale. Tu questo stavi spiegando, non hai mai detto che la storia di Berlusconi è una storia di mafia? Ma perché? La storia di Berlusconi è la storia di un grande uomo, sì, che ha costruito un impero, che è stato un grande politico e che adesso viene massacrato, sì, anche se adesso c'ha uno spazio di, sì, speranza. Però non basta, perché ecco, intervengono, guarda caso, tac, guarda subito t'hanno pizzicato, subito t'hanno bastonato, subito t'hanno bastonato, è quello che voleva dire, è quello che voleva dire quello del fatto che hai mandato a fare in culo, sbaglio? Ah no, quello gli ho detto, no, non gli ho detto, non l'ho trattato male, gli ho detto vai a fanculo, proprio così, basta. Ciao Emilio, ti abbraccio. Ah, ciao, no, a voi, scusate. Ti abbraccio, no, figurati, ciao, ciao, ciao, caro, ciao. No, non sei Cruciani, se no, se sei Cruciani ti mando subito a fanculo. Andrea da Rimini, Andrea. Pronto? Dimmi Andrea, dimmi. Ascolta, io sono un ex elettore di Forza Italia. Sì. Quando ho visto Galan sul TG3 un'ora fa, sì, mi è, sì, venuto il vomito. Sì. Gli spezzerei anche l'altra gamba, lo caricherei in un'ambulanza dietro, ma non legato, libero, lo porterei a Venezia e lo butterei giù in un canale. Aspetta, aspetta, fai... Perché Andrea? No, perché Andrea? Mi fa schifo, schifo, vomito, vomito, schifo. È un essere... Ma perché? Spiegami perché. È una merda, una merda. Poi gli manderei due rom in casa, accolti da sua moglie, e manderei tre rom in casa di Parenzo, che lui, che schifo, chi? Guardi, è una, c'ha una, le sue parole hanno una violenza inaudita. Aspetta, aspetta, mi fai parlare con questo signore. Andrea, io voglio capire una cosa, perché tu spaccheresti la gamba a Galan? Spiegami. Perché è un cane, ha rubato un sacco di soldi, lo sanno tutti. Ma lo sanno tutti, che vuol dire? Ma non è che lo sanno tutti, bisogna dimostrare, no, le cose. Bisogna dimostrare le cose, Andrea. Lei è di una violenza inaudita. Io spero veramente che Galan, io non la querelerò perché lei è un poveretto, ma spero che Galan. Ma perché tu, ma perché ti dovrebbe, lo dovresti querelare? Scusa. Mi ha detto che, ma scusa, ha detto delle cose violentissime, che spero che gli vadano i rom in casa e molestino la moglie. Ma è una cosa, una violenza inaudita. Una violenza inaudita, lei è una persona violenta. Ma quale violenza? Lei è una, se lei, se si augura, lei è violento. Ma io guardi, manco per nulla, lei è violento, lei ha detto una cosa. Aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi tutti. Vittorio, niente, era Sgarbi, Vittorio, niente, mi chiama durante la trasmissione, incredibile, l'unico che può farlo, mi chiama durante la trasmissione, vabbè, allora Andrea, non ho capito. Vittorio, chiamami, scusa, avviso per Sgarbi, chiamami dopo le 20:30 un attimo. Niente, Claudio da Roma, dai. Claudio. Pronto? Claudio, dimmi. Ciao. Dimmi. No, io volevo chiedere una cosa a Parenzo, molto, molto semplicemente, senza violenza. Ma secondo lui, se io avessi un Mercedes, un telefonino da 800 euro, soldi a non finire e uno stile di vita che nasconde evidentemente questa ricchezza, avrei diritto o non avrei diritto alla casa popolare? Ora, faccio questa domanda. Assolutamente no. Assolutamente, okay. Allora, no. Allora... assolutamente no. Perfetto. Ma quale? Ma ragazzi, ma stiamo parlando di, a parte che l'idea stessa dell'esistenza delle case popolari mi fa orrore in generale. Il principio della casa popolare già mi fa orrore di per sé. Benissimo. Lasciamo perdere. In una società normale le case popolari, cosiddette popolari, non esistono. Ma chi te l'ha detto? Quello ma lo chi penso io, ma lo posso pensare o no? Posso avere un'idea di società o no? Nella mia idea di società, le case popolari, no, non c'entra niente. Le case popolari non esistono. Le case popolari non esistono, gestite dai comuni e dallo Stato, sono solamente delle sentine di illegalità, spesso sentine di illegalità. Da una parte non vuoi vedere i barboni per strada. Aspetta, perché Vittorio, non vuoi vedere i barboni per strada. Che succede, Vittorio? Scusami. No, no, volevo dire che questa vicenda di Galan ha determinato quell'ira furibonda di quello nella presunzione della colpevolezza. Sì. Da un lato rimane incivile e contro il diritto della riconoscere qualcuno sia innocente, che possa essere innocente, la cancellazione preventiva. Sì. Però il voto di questi parlamentari idioti è la prova che non c'è immunità parlamentare. Esatto, non esiste più, non esiste più ormai. Immunità tra l'immunità dal processo. Il processo ci sarà, Berlusconi è stato condannato e cacciato dal Senato. Berlusconi è stato condannato, quindi l'immunità non c'è. Non c'è più. Non c'è neanche l'immunità dal carcere, questo ha patito. Tre mesi di pena in attesa di essere arrestato. Non mi fa pena perché fa schifo anche a me. Però oltre il carcere ha avuto anche l'aspettativa del carcere. Perché ormai nessuno viene più perdonato da parlamentari che si vergognano dell'immunità che non hanno. Esatto, allora aboliamola direttamente, perché viene ormai c'è questo passaggio? Ormai non esiste più, ormai l'immunità parlamentare. Esiste, quando rifacevano la riforma del 93 rimase l'insindacabilità, che è quello che chiamano sì. Poi è rimasta questa cosa degli arresti, che è diventata alla fine una tortura, cioè il problema, meglio è stato subito, e dopo 6 giorni liberato. Assolutamente, aspetta che devo mandare la borsa, poi torno subito. Questa particolarità. No, no, bravo, hai fatto bene, perché significa, come il voto su Genovese, eccetera, ormai si vota Pappa, tutti questi si vota sicuramente per l'arresto, non esiste più l'immunità, è inutile che dicono esiste l'immunità, non esistono. Anzi, è peggio, perché tu aspetti. Il culo dei vecchietti Berlusconi e non è più senatore, vuol dire che l'immunità non c'è più. Ciao Crucial! Con un proiettore nel Duomo di Messina hanno proiettato delle minchie finte. Questo è un delinquente che già su roba per Google. Lui c'è scritto Gaetano fra Google, scusate. Roberto da Roma. Ciao. Vai. C'ha ragione Taormina, comunque è tutto degradato qua. Degradato, sì. Tu è tutto degradatissimo, non degradato. Ormai è tutto degradato. È tutto degradato. Ha ragione, tu vuoi i froci che si baciano sulle panchine. Parenzo vuole le case plexacomunitari. Io lavoro tutti i giorni, la mattina alle 5. Non c'ho i soldi per comprarmi casa, devo vivere con mi socera e i rom, casa popolare, e gli devo pagare pure le bollette. Ti sembra una cosa regolare questa? No, guarda, Roberto, no, mi sfonda una porta aperta, guardi, lasciamo perdere. Ma Parenzo, c'è mai venuto in Borgata? Lo sai che vuol dire a Borgata, Roma? Cioè, stanno già guarda che io te lo dico con pacatezza, prendo la metropolitana a Roma tutti i giorni, conosco perfettamente qual è la situazione delle metropolitane di Roma, sono stato in Borgata un sacco di volte a Roma per fare dei servizi e delle cose. Ma a Borgata non è zona pratica. Non difendo l'illegalità, non l'ho mai difesa. Se uno ruba, se uno ha il Mercedes e vive in una baracca. E ma quello è scontato dirlo, caro Parenzo, è scontato. Così. Non ce la si può prendere con... perché ci deve stare a casa popolare? Prima ci stiamo noi, ragazzi, ci sta la gente. No, non è questione che... No, ma qui non è arrivare prima o dopo, essere prima noi o prima gli altri. Il problema è uno solo. Tutte le società sono basate su dei principi, su dei principi fondamentali, che sono quelli, per i quali muori. No, ma tu Ovidio devi muori. No, ma per... tu hai una contraddizione. Vabbè. Perché da una parte sì, te lo dico, perché da una parte non vuoi vedere i barboni, i poveracci. Ma chi ha detto che non li voglio vedere? Io li voglio vedere dentro. No, non li voglio vedere per strada, li voglio vedere aiutati, ma i barboni, i veri barboni, non quelli che dici tu. Apposta per barboni, aiutate le associazioni, aiutassero i barboni. Bravo. Ma non devono dare casa all'extracomunitario, no, all'extracomunitario, scusa, ai rom, perché c'è stato un extracomunitario sotto casa mia che c'è una frutteria, Bangladesh, quello paga l'affitto della frutteria e l'affitto di casa. Bravo. Allora, e lavora, vuole lavorare, allora vuole lavorare, si vuole integrare, vuole lavorare. No, ma non sei d'accordo, perché parli di cose che non... No, vi ho detto che l'integrazione costa, cioè finanziare delle associazioni se lo fanno bene. Che allora è meglio dargli casa popolare. È meglio dargli... Dammi casa popolare a me, me la metti 100.000 euro, io te la pago, ok? e con quei 100.000 euro ci guardi ma se tu hai diritto alla casa popolare, la devi avere la casa popolare, perché molti di questi qua sono anche italiani peraltro, e sto dicendo semplicemente ma questo diritto la di casa che? Popolare ma secondo vale quali redditi? Diritto. Secondo se quali redditi che sono casa, falsi? Ragazzi. Sono casa falsi i redditi casa che presenta la casa popolare ve la danno se sei storpio, se c'hai una figlia che sta morta e una figlia disastrata. Ma poi basta, se sei singaro, allora preferisco ma basta con le case popolari, basta con le case popolari, basta. Ma come basta, basta con le case popolari, basta. Ma sono cose vecchie, finite. Ha ragione l'ascoltatore, prende il caso di una persona, ad esempio, che gli è morto il marito, ha una figlia disabile, non ha reddito, dove lo metti? Per strada? Basta con la casa popolare, basta. È una vergogna, è inumano. Ci devono essere molte più case popolari, anzi, i comuni dovrebbero costruire le case popolari e costruirle anche nei quartieri semicentrali, non in periferia. Perché questa è l'integrazione vera, altro che. Perché chi ha perso il marito e ha una moglie disabile e non ha reddito, dove deve stare? Per strada, secondo te? Vabbè, per strada, noi siamo per strada. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardava. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania, bisogna dare la pensione, guardava al giovane Bossi. Guarda oltre i monti, lui è stato non permettere consigliere regionale. Fai vedere ha preso una laurea in Albania. Chi ti vuole? Ti ha fatto riportare l'impossibile. Sali Padania. Pure vuole pure. Fai vedere la pensioncina della regione Lombardia. E Nabucco salirà alto nel cielo e ti cullerà. Pellegrin, il bambino scemo, ha pagato gli immigrati. La libertà. Se volete intervenire, noi aspettiamo le telefonate del bambino scemo, degli immigrati stimolati dai bambini scemo, dal bambino scemo. Io ho detto deve pagarli evidentemente, quindi ma mi sa che questo, siccome il bambino scemo li ha pagati per telefonare, questo ha preso i soldi, poi sono andati per la roba. È andato, probabilmente lui ne conosce il bambino scemo della Zanzara, chissà quanti ne conosce in stazione centrale di migranti. È andato lì, li ha pagati, loro preso sono andati via ovviamente. Cosa volete che facesse? Mica sono scemo, sono immigrati, non sono scemo. Fai sentire quanto è forte la tua voce, guida il popolo nella tempesta come una madre e il figlio. Beh, in realtà ti hanno rubato i soldi già una volta, dovevano suonare da noi e no. Gli hai dati i soldi i signori Rom e non sono venuti, lo ricordo bene. Era un signore, una specie di cantante, gli hai dati i soldi e col cavolo che è venuto, se l'hai messo in tasca. Fratello, io sarei tornato là, l'avrei strozzato, tu invece l'hai fatto passare in cavalleria. Ti do 5 euro, in più ti do 2 biglietti della metropolitana per venire. Senti un attimo ancora Pellegrini ancora su Jesolo, non so che è successo. L'altro giorno ci sono stati dei controlli in spiaggia di Jesolo sugli abusivi, sui Vucumpra. Lo ripeto, il Vucumpra mette in commercio prodotti che sono legati alla criminalità organizzata. E durante questi controlli in spiaggia sono stati difesi dai bagnanti, che hanno addirittura protestato contro i vigili che volevano sequestrare merce contraffatta. Complimenti, very well, dicono gli inglesi, very well, siete veramente forti, siete fantastici. Padania bella e libera. Ancora sul Vucumpra, i Vucumpra. E comunque nel caso foste all'ascolto del punto e basta, mi raccomando, andate ad ascoltare la Zanzara, perché quelli sono i programmi per voi. Non avete la testa per ascoltare questo programma, lasciate perdere, lasciatemi perdere, non ascoltatemi, non ascoltate il punto e basta, per piacere, casomai qualcuno di voi fosse all'ascolto. E addirittura non voglio neanche che telefoniate per spiegare la vostra posizione, perché mi fate schifo, mi facevate schifo comunque. Io so, vengo da quelle zone, il Vucumpra non è l'innocente, il Vucumpra è minaccioso, il Vucumpra ti mette le mani addosso, il Vucumpra ti impedisce di muoverti. Servi di Roma fuori. Vabbè, adesso potranno avere tutte le responsabilità del mondo, sicuramente. Ma sai che secondo me non è intelligente, però, perché continua a dire ascoltate la zanzara, ascoltate la zanzara. Sì. Sono spiato come la Merkel. Servi di Roma fuori. A proposito di spiarci, buon lavoro Cosimo Cauccio. Pensate, essere alla mia età, arrivare a essere spiato, mamma mia, è davvero spiato come la Merkel dagli americani, fantastico, davvero incredibile. Adesso c'è Zanzara Best. Andrea dalla provincia di Vicenza mi vuole attaccare, si è molto arrabbiato, allora, per paragone, allora, Fede Tortora domani. Caro Cruciani, sì, caro dimmi. Cruciani, caro Parento, anzi più caro Cruciani, perché penso che Parento l'abbia letto. Dimmi, dimmi. Leggiti applausi e sputi di Vittorio Pezzuto. Vabbè, ma io era un paragone. Le stupidaggini che hai detto. No, no, aspetta, fermo. Io non ho fatto nessun paragone. Ho detto che nei confronti di Fede non ho fatto nessun paragone. Ho detto Fede, ho riportato quello che dice Sgarbi innanzitutto. Se dovesse finire in un certo modo, ovviamente i casi sono molto diversi, ma riprenderemo il discorso domani. Non mi voglio sottrarre, Andrea. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao. Zanzara Best, il peggio dell'anno. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita, vuoi dir di sì, vuoi. Ma abbiamo con noi il direttore di Chi, Alfonso Signorini. Ciao Alfonso. Buonasera, ciao. Beh, come ciao. Stai, caro Alfonso? Cavolo, è un battesimo per me, è la prima volta. La zanzara ci voleva Dudu, immagino. Allora, assolutamente, tu devi sapere una cosa, se io fossi, come dire, Valenzo, se non fossi eterosessuale, io un pensierino su Alfonso lo farei. Se non fossi... Sì, certo, guarda, l'hai detto anche a Malgioglio 3 sere fa. Guarda. No, Malgioglio non l'ho detto, io farei un pensiero a Alfonso perché ha quel carisma, quel piccola cosa che è il carisma, cioè poi non è proprio, non è una bellezza dell'umanità, diciamo, non è proprio il massimo, però c'è quello sfruculiamento, ma tu sei aperto a mille soluzioni, vedo perché. Senti, non ho capito, a proposito, ma metterti steccati, perché questo Dudu, tu quanto lo conosci Dudu innanzitutto? Guarda, quanto... molto bene, devo dirti che è meno educato del cane di D'Alema. Perché? Innanzitutto a Villa San Martino i bisogni li fa dove vuole, perché capirai, con tutto quel po' di Dio del giardino che si ritrova, ce li fa pure in casa, dici? Anzi, ci puoi fare anche di farci delle belle scivolate nelle pizze che semina per il pane. Ma pure sul letto qualche volta, no? No, quello no, non arrivo fino a quello. E poi invece a Palazzo Grazioli di solito la fa il cortile, però non so chi la raccoglie. Comunque è uno sporcaccione. Non credo che sia un cittadino così modello, cioè credo che la raccolga lui. Non credo. Magari Bondi. Francesca. Bondi. Ma credo neanche lei, guarda. Bondi forse. No, Bondi. Io dico Bondi forse, Bondi quando è lì ogni tanto. Non lo so, potrei candidarmi a raccogliere la cacca. Senti una cosa, ma come lo trovi questo Dudu dal punto di vista, come dire, sessuale? È molto effeminato. Cioè è gay, cane, è gay. Secondo me è gay, io lo sostengo da sempre, affamato di ribalta, vuole tutte le copertine, cioè quando ha visto Putin non gli pareva vero, è stato lui ad avvisarmi di farsi fotografare per avere la copertina. Perché ha visto il macio russo, dici? Esatto, è peggio della Bellucci, Dudu, capisci? Quindi si può accoppiare con la cagna di D'Alema? Quindi si potrebbe... Non lo so questo. No, si potrebbe accoppiare, accoppiare, no, Dudu è maschio, mi pare. Capito, ma si no, ha detto... è femmina, non capisci niente tu del mondo omosessuale. Dudu adesso sta con un mastino napoletano dei quartieri spagnoli, si vedono ogni tanto quando la Pasquale va a Napoli adesso tu stai scherzando, dai, lo è. Cioè, ma sto scherzando, guarda che è vero, cioè sta con un mastino napoletano, ti do uno scoop, neanche lo sfrutti, scusa. Scusami un attimo Alfonso, innanzitutto il vero sesso di Dudu qual è, maschio o femmina? Femmina. No, è maschio, è maschio, tu sai Parenzo, che è figlio dell'amore Dudu, ma femmino o femmina? In che senso? Allora, perché praticamente la mamma si è accoppiata a un la mamma è Toy, però si è accoppiata ad un cane che non è un barboncino, che era un cane di un carabiniere in pensione. E da questa unione così improvvisata è nato, e il fratello di Dudu sta nei paesi dell'est, pure pure, cioè, tutto torna. Poi la Michela Brambilla se n'è appropriata di questi cuccioli, sì, e uno di questi l'ha pioppato alla Pascal. Comunque, secondo te è gay? Secondo me sì, da sempre. Da sempre gay. Ma scusa, ma secondo te un cane che non è gay segue così i fotografi? Sì, no, questo è vero, questo è vero. Ne hai visto uno? Scusa. No, poi tu sei esperto di materia, per cui no, ma poi non solo sono esperto di materia, ma Berlusconi nei confronti dei gay è sempre molto accogliente. Beh, però questa qua è una bella notizia, sapere che Berlusconi ha in casa un cane omosessuale. Un cane gay. Beh, devo dire che gli lecca pure i piedi. Che gli lecca pure i piedi. Fetichismo, no. Scusa, ma tu che sei così vicino, a Berlusconi, lavori per Berlusconi, sei vicino a Berlusconi, apprezzi Berlusconi, eccetera, eccetera. Certo. Ma il fatto che sia così invece amico di Putin, che insomma visibilmente proprio i gay non li può vedere, un po' non ti sta sulle palle questa cosa qui? Ma guarda, a me un po' mi sta sulle palle questa cosa, certo che sì, però devo anche dirti che nel mio caso io non posso dire niente, perché ha sempre mostrato una grande, anzi io gli ho anche detto una volta che secondo me lui si perde una delle gioie della vita, no? Un giorno lui mi fa, tanto i nostri binari da quel punto di vista lì non si incroceranno mai, a parte che a me i vecchi non mi piacciono. Questo non si sapeva. Sarebbero comunque parallele le nostre strade, ma in ogni caso lui proprio non ci vuole sapere. Però devo dire che al gioco ci sta sempre. No, ma sulla sua tolleranza non c'è dubbio. E il fatto che sia così amico di Putin, gli hai detto, ma che vai a fare con quello? Digli qualcosa su sti gay, non gliel'hai mai detto? Lo so, gliel'ho detto sì, però purtroppo se ne frega. Quando si vedono non parlano di quella roba lì. Di che parlano? Non so, parleranno d'altro. Di figa, un po' di figa parlano, dai, su. Un po' sì, dai. Anche di Gasman. No, ma che di Gasman? Sì, per Parezzo di Gasman. Ma di pure Gasman. No, di gas. Che frega di Gasman? No, di gas, gas, di gas, petrolio, di ma che di gas? Ma lì, i consulenti parleranno, ma parlano solo di figa, dai. Certo, ma che ci va a fare nelle dace? Andiamo. Mica abbiamo le fette di salame sugli occhi. Va bene tutto, però. Maliziosi, sì. Ma che maliziosi, è normale. Però a me piacerebbe andare un weekend con quei due. A chi non piacerebbe, scusa? Mia, a parte che ci stanno là le guardie del corpo di Putin, che sono sicuro che in qualche modo ti attraggono. Non dico niente. Ma a me attrae pure lui, io non l'ho mai nascosto. Putin. Ha un suo perché quando va alla caccia della tigre siberiana con quella faccia da duro, non so, veramente. Ma dai, pure tu, Putin. Ma puoi trovare di meglio pure tu, dai, Alfonso, Putin. Ma ognuno ha le sue perversioni, tesoro. Tu c'hai la Lucarelli, io Putin. Ma questa ho sempre la battuta pronta, capito? No, seccato, mi lascio seccare, Senti, ma tu ti sposeresti mai o no? Ma con un uomo, con un uomo. È una buffonata sta storia del matrimonio? Sì, secondo me sì. Non mi piacciono le unioni, i matrimoni, né tantomeno le adozioni omosessuali. Tu hai adottato un gatto? Io ho adottato un gatto, infatti lo tratto come un figlio. Adesso devo andare dalla Bernardini per lasciargli tutti i miei pochi averi. Capisci? Pensa come sto messo. Sono sentimentalmente di un'aridità impressionante. Senti, ma tu ti staccheresti mai dalla famiglia Berlusconi? Cioè, dal punto di vista professionale? Come dire, ci hai mai pensato? No, non ci ho mai pensato, perché io veramente, guarda, ma chi me lo fa fare? Lo so, chi te lo fa fare? Io sto bene, che me ne frega. Ti abbraccio, a presto, ciao. Zanzara Best, il peggio dell'anno. Bianca da Udine. Pronto? Eccoci. Pronto, mi senti? Sì. Pronto, ecco. Allora, il mio contributo alla trasmissione è in questi termini. Mi domando, come mai un ministro del nostro Stato, che è la signora Kenze, attenzione amico mio, cioè questa qui è venuta su da clandestina, è stata istruita da noi che le abbiamo pagato la laurea e tutto quanto. Io da cittadina italiana, da madre single divorziata, non ho potuto laureare mia figlia. Ma che c'entra? Cazzo se c'entra, non farmi parlare male! Ma a parte che lei bisogna, si rende conto di scusi quello Bianca, che sta bisogna dicendo. Dimostrare che noi abbiamo pagato la laurea alla Chieng, che vuol dire? Appunto. Io non ho niente, questa qui è venuta su dal Congo dove si stanno ammazzando e si mangiano. E allora? Si mangiano. Allora? Guarda che i suoi figli sono italiani. Si stanno mangiando. I figli della signora Chieng. I figli della signora Chieng sono italiani, ha capito? E hanno studiato in Italia, sono italiani. Ma va a cagare, detta in termini, va a cagare. Ma che vuol dire, Bianca? Lei vota Lega? Non voto Lega un cazzo, io sono una repubblicana ancora noi, ma mi vergogno ma di questo stato. Sarà. I nostri ragazzi si ammazzano. E allora? Non hanno un lavoro, non hanno niente. Io per vivere devo andare a stare alla mia età 8 ore in piedi, mi vengono due gambe grosse così per avere 40 euro dopo 3 mesi. Quelli che arrivano qua c'hanno da mangiare, da dormire, c'hanno le schede telefoniche e 40 euro al giorno. Ma la chi è gay italiano però? Cosa quelli, che arriva... quelli che arrivano qui sono dei disgraziati. Chiaro, gli immigrati. Perché è così incazzato con la Chieng, lei? Me lo dica. Ascoltami, caro. Allora, partendo dal presupposto che non sono una testa di cavolo, e alla senza stregua, per l'amor di Dio. Questo, sì, questo valutiamolo con calma. Perdere. Hai capito? No, no, caro, non con sono calma. Una stupida, non lo sono mai stata. Questo allora, valutiamolo dopo, dico, valutiamolo. Attenzione, Cruciani, attenzione. Perché io devo assoggettarmi a una persona che della mia cultura ma non sa neanche che cosa sono? Cosa vuoi che sappia lei di Garibaldi, di Mattini? Tu pensi che quella donna lì è allora? Italiana? E allora? Ma stai zitto, coglione! È coglione, italiana! Ripeto, dolcissima signora sei bianca! È scemo. Italiana! Scema è lei, è ignorante è lei! Lei è ignorante! La Chieng è italiana, ignorante che non sei altro! Repubblichina! Altro che repubblicana! Repubblica è italiana! Asino! Asino che non sei altro che un asino! Io sono italiana! Ma io bianca! Oh, signora Bianca, la ma dolcissima signora Bianca, la nonnina Bianca. Vuoi venirmi a dire che è italiana? Non lo è! E allora? Understand? Mi hai capita? Non è italiana! E allora? È diventata italiana, non e allora? È. Ma di che cosa si non fa? Lo è. È non diventa- lo è! È diventata italiana, ha il passaporto italiano, i documenti italiani, capito? E chi se ne frega? C'è e allora, scritto che deve fare? Cittadinanza e italiana! È come te! Lei è come te! La Chiesa è come te! C'è scritto cittadinanza italiana sul passaporto! Ci siamo! Lei non difende un cazzo! I diritti sul passaporto c'è scritto cittadinanza. Sul passaporto. Documentatevi, Crivio! Chieng, Chieng come Bianca da Udine! Chieng come Bianca da Udine! Chieng come Bianca da Udine! Poverino, non lo considero, poverino, non lo considero. Parlo solo con te. No, però scusa, Bianca, sta dicendo. Parlo con te. Sta dicendo ha trovato l'interlocutore. Sta dicendo Parenzo che la Chieng è come Bianca da Udine. Certo, ma va a cagare, la Chieng non è me, perché se io fossi la Chieng, fossi il ministro di questo stato, garantito che non mi sarei comportata da egoista come lei. C'è quanto? E allora? C'è quanto mi hai capito adesso? Come ti saresti io comportata? Io avrei avuto l'equilibrio nei confronti degli immigrati e degli italiani e non avrei fatto l'egoista come lo ha fatto lei. Ma come ha fatto l'egoista? Che vuol dire? Ha fatto gli interessi suoi. Ma suoi di e a me non sta bene. E non ritengo che i ragazzi che ci sono adesso che si suicidano, che non hanno lavoro. Ma che c'entra la Chieng con ma di che cosa parliamo? Ma che c'entra la Chieng con quelli che si uccidono e non la, perdono? La Chieng c'entra. Lei non è altro che uno strumento. Di che cosa? Lei è lo strumento del PD per fare i cazzi suoi. Che vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Sei un uomo molto intelligente. Ma che vuol dire lo strumento del PD per fare i cazzi suoi? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che cosa va? Per un interesse. Per un interesse questa donna che è una nullità. Allora? Perché fosse un genio, cavolo. Per interesse subito. Quale? Quello, quello dell'invasione, qual è l'interesse? Appunto, vedi che mi hai capito. Bravo, hai detto ma giusto. Veramente io qual dicevo così. Questo è pericoloso però per te, io te lo dico. Hai detto giusto. Ecco. Qual è l'interesse? E che ne so qual io? È lo scopo? E che ne so farci? Qual è lo scopo? Qual è distruggere la nostra caratteristica? Qual è lo scopo? E che ne so? Bravo, dimmelo tu. Come bravo? Bravo. Ma no, ma io lo dico così. Ti dice bravo, ti rendi conto? Ah, oh, divento zitto, scemo. Mi scrive Claudio Frigerio. Stai zitta. Dai, zitta, Bianca, va, torna a fare il pomodoro. Claudio Frigerio mi scrive: ma chi è questa signora? La moglie di Borghezio? Ha ragione. Claudio Frigerio su Twitter, questo genio, mi scrive: ma chi è? Ma chi è questa? La moglie di Borghezio? Te, no, infatti torna a fare il sugo, perché il sugo lo devi cucinare per delle per ore, capito? Se no non è buono, torna a fare il sugo. Torna a fare il sugo e le polpettine al sugo. Tanto poverino. Fai le polpettine al sugo e calmati. E calmati molto, perché la Kench è italiana. Calmati, fattene una ragione. Kench è italiana. Fattene una ragione, cara la mia white, cara la mia bianca. Bianca. È italiana la Kench. Ciao. Ciao. Ciao. Zanzara Best, il peggio dell'anno. Ah beh, papà Renzo non facesse lo stronzo, perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui, eh. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Questo è un delinquente che già su roba per Google. Lui c'è scritto Gaetano fare Google, scusami. Radio 24. La passione si sente.